Benvenuti nell'Armicene, l'epoca in cui le armi divengono per scelta del genere umano padrone del nostro destino. E la violenza prende il posto della tenerezza, del dialogo e della solidarietà. Siamo arrivati ad essere uomini sviluppando tecniche per sopravvivere in un mondo inospitale ed ostile. La natura ci avvolgeva e ancora nudi, tra i primi artefatti abbiamo prodotto armi per difenderci. Le abbiamo costruite per necessità. Adesso, per nostra scelta, le armi prendono il potere sul genere umano. Sotto reti mimetiche, in panni mimetici, con armamenti mimetici, ci nascondiamo nella natura per distruggerci e per distruggerla. Sta a noi ora scegliere la strada giusta, uscire dall'armicene, smettere di indossare armature per nascondersi, uccidere, distruggere e ricominciare così a camminare. Io immagino quel nostro antenato che fabbrica la prima lancia e spera che un giorno venga sostituita da fiori e che pianga a vederci ridotti a schiavi delle armi e senza la speranza di trovare un nuovo cammino da fare, una strada per la pace. Questo era Sirante, un artista straordinario, giovane, che porta i suoi colori nella città. Ci potremmo anche fermare qua, perché abbiamo dimostrato che 1500 persone insieme possono accendere un segnale e farlo viaggiare in tutta Italia. Ma c'è qualcuno che fa fatica a capire l'importanza di questo evento. Soprattutto non comprende l'importanza che si può avere oggi adoperando bene le nuove tecnologie. Io, nel momento in cui mi sono reso conto che questo evento stava diventando di grande interesse per il pubblico, ho alzato il telefono e ho cominciato a chiamare tutti. L'ho proposto a Sky, che non l'ha voluto. Si può vedere su Sky al 510, ma perché i miei amici di Telenorba hanno deciso di concederci questo canale. Ho chiamato Rai News 24, non mi hanno nemmeno richiamato. Ho detto che magari la potevano mandare in differita domani, che gli avremmo dato il segnale. E ho chiamato la 7 e ho usato una parola che per la 7 è magica: gratis. Perché la 7 ha un editore che è particolarmente sensibile alla parola gratis, ma nemmeno gratis questa volta siamo riusciti a dargliela. E allora, grazie al fatto di questi accordi con alcuni amici di televisioni locali e nel nord, nel sud, e di questo canale satellitare, io sono andato avanti e ho messo il segnale su YouTube, libero, in modo che tutti lo possano prendere, che è la cosa più importante che sta avvenendo stasera, perché chiunque può catturare questo segnale e collocarlo sul suo profilo Facebook e farlo vedere ai suoi amici. Questa è una cosa straordinaria, che ha una forza eccezionale. A questo punto arriva qualcuno e comincia a dire: ah no, ma ci sono certi che non ci piacciono. Bah, chi se ne importa? Cioè, non fanno parte delle persone che sono state da noi contattate ufficialmente. Ma se noi vogliamo far esplodere un segnale liberamente, poi non possiamo fare un minkul pop che comincia a dire: ah no, quelli non ci piacciono. Libero vuol dire libero. Chi lo manda, lo manda. E se noi abbiamo la forza di mantenere questa posizione, noi stasera dimostreremo che la censura può farci un baffo. Se noi invece cominceremo a fare i puristi, magari perché dobbiamo difendere i nostri piccoli interessi di bottega, e allora non andremo da nessuna parte. Ma siccome io penso che stasera sia solo l'inizio, ebbene, l'inizio sia libero, come abbiamo voluto farlo, libero. E la prima voce che sentiremo stasera è quella di Elio Germano. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali, in dignità e diritti. Questo è il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, firmata il 10 dicembre 1948, dopo che metà dell'umanità aveva conosciuto le leggi razziali, i campi di sterminio, la guerra e la fame, perché questa catastrofe non accadesse più. La costruzione e la pratica dei diritti umani sono il migliore antidoto, la migliore prevenzione alla guerra. Perché dove non ci sono diritti umani per tutti, quando si considerano milioni di esseri umani spendibili per mantenere o espandere la ricchezza di pochi, c'è già di fatto una guerra in corso. Una guerra di aggressione e di rapina, imposta, quando serve, anche con la violenza delle armi. Se oggi nel mondo ci sono oltre 40 conflitti attivi e 26 ultramiliardari possiedono più risorse della metà più povera del pianeta e 11 persone rischiano di morire di fame ogni minuto, è evidente che qualcosa non ha funzionato. Nessuno stato del pianeta ha costruito realmente quei diritti che si era impegnato a realizzare. Cibo, cure mediche, istruzione, un posto sicuro dove stare. Oggi quel documento suona provocatorio, offensivo. In un mondo in cui miliardi di esseri umani nascono schiavi e diseguali e non ci sono diritti per tutti, solo privilegi per pochi. E la guerra è il simbolo di questo mondo di umani senza diritti, a cominciare dal diritto a restare vivi. La guerra uccide non solo il presente, ma anche il futuro, divorando risorse che basterebbero per vincere, ad esempio, la fame e la povertà. Nel 2020 la spesa militare globale ha continuato a salire, sfiorando i 2.000 miliardi di dollari. Il bilancio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, giusto per dire, è poco più di 2 miliardi di dollari. Lo 0,1% di quello che si spende per le armi. Ogni F-35 costa 135 milioni di euro, quanto allestire 1.000 posti letto in terapia intensiva. Basta scegliere, non è difficile. Un modo diverso di vivere su questo pianeta è possibile. Vivere in una società che rispetta alcuni principi indiscutibili e non negoziabili, i diritti umani. Non è questione di risorse che mancano, ma di scelte che non si fanno. Che priorità ci diamo come società? La vita delle persone o la guerra? Salute, istruzione gratuita, un lavoro dignitoso, protezione? O fame e sofferenza per molti. Non lo faranno i nostri governanti, non lo faranno i politici. Spetta a noi, in quanto persone, e non in quanto cittadini di questo o di quell'altro paese, in quanto persone che si riconoscono semplicemente come membri della stessa specie, invertire la rotta. Per per evitare la sofferenza di centinaia di milioni di esseri umani. Allora, le parole di Gino Strada sono il modo migliore per cominciare questa serata. Adesso sentiamo un generale. È un generale vero, anche se lo vedrete, diciamo, riprodotto con una forma creativa. È il generale Mini, che dice come lui vede le cose. E lo dice con un certo sforzo di essere oggettivo. Allora sentiamolo. Prima parte. Siamo in pieno conflitto mondiale. Le guerre che si sovrappongono e includono le operazioni in Ucraina, come quella economica, finanziaria, ciber, demografica, dell'informazione e della propaganda, non sono metafore. Sono guerre vere, che producono danni maggiori di quella convenzionale. E sono globali. Non c'è già una guerra oggi tra la NATO e la Russia? Certamente, ed è la più pericolosa. Teoricamente la NATO potrebbe astenersi dal proseguirla, perché occorrerebbe l'unanimità, e questa non ci sarebbe se anche un solo paese membro si opponesse. L'unica salvezza dalla guerra può venire soltanto da un passo indietro degli Stati Uniti o dalla spaccatura della NATO. Non ritengo probabile nessuna delle due. Se qualcosa succederà, sarà dopo la guerra ucraina, ma potrebbe essere troppo tardi. C'è chi dice che il pericolo di una guerra nucleare è una bufala di Putin. Secondo lei? Io non mi preoccupo di quelli che annunciano la guerra nucleare. La considero una specie di scaramanzia. Mi preoccupano invece quelli che la negano. Quando la guerra nucleare era soltanto strategica, l'equilibrio del terrore funzionava non perché entrambi i blocchi dichiarassero di non voler sparare il primo colpo, ma per l'inverso. Entrambi sapevano che in determinate circostanze avrebbero sparato per primi. Oggi, che la soglia nucleare è stata abbassata a livello tattico e che per questi ordigni di potenza da 0,3 a 50 chilotoni non c'è neppure bisogno dell'autorizzazione di un padre eterno, la guerra nucleare non solo è possibile, ma è probabile. E che 50 chilotoni su Kiev o su Mosca non possano innescare un'escalation a livello strategico è una pia illusione. O, questa sì, è una bufala. Ma io sono contenta di quello che è stato detto proprio adesso, perché volevo cominciare proprio da questo. Io temo che ci sia una grave, molto rischiosa sottovalutazione del pericolo di questa guerra. Per ora sembra uno spettacolo serale, televisivo, è lontana, vediamo le immagini e pensiamo che tutto al più finirà nel circuito dei confini dell'Ucraina. E invece il pericolo di una guerra che diventa mondiale e anzi nucleare è sempre più forte, perché il punto è che se incominciano a entrare in campo le forze della NATO, in parte già ci sono, badate, ma ufficialmente le forze della NATO, si va a uno scontro Russia, Stati Uniti d'America, Occidente, Europa e tutti quanti. E a quel punto la guerra è già mondiale, ma questo capite che può succedere in ogni momento. E diventa nucleare, perché come è stato detto proprio adesso, il nucleare è molto cambiato. Non siamo più alle belle bombe buone dei tempi felici in cui la guerra era solo fredda. Adesso non è così, perché allora, se non altro, per quanto irresponsabili potessero essere i capi di Stato, erano pur sempre loro che dovevano prendere la decisione di sganciarle. Adesso invece il nucleare può essere sparato da chiunque, quasi con una rivoltella, perché c'è per l'appunto il nucleare tattico, quello a medio raggio, quello a corto raggio, e qualsiasi foreign fighters, a soldato o volontario, e sapete che l'Ucraina è piena di tutti questi, ma anche chiunque, diciamo, pur ben intenzionate, un colpo è facile che parte in qualsiasi momento su un campo di battaglia, e a quel punto è la guerra nucleare. E allora non ci sono più confini. Forse ci sono per gli Stati Uniti, forse si salvano perché sono molto lontani, forse è per questo che continuano a invocare la guerra. Per noi europei la cosa è un po' diversa. E allora io continuo a chiedere, in tutte le trasmissioni televisive, in tutti i momenti. Ma che cosa pensate di fare di questa guerra? Qual è la strategia per uscirne subito, perché non degeneri in una guerra mondiale? Ma non ricevo mai nessuna risposta. Mi rispondono sempre: il popolo ucraino ha diritto a difendersi. Certo che ha diritto a difendersi, ma io vorrei difenderlo in modo tale da evitare che continui questo massacro lacerante che vediamo tutte le sere sugli schermi, le donne che scappano, i bambini morti, le bombe. Ma questa è la guerra, per l'appunto. Non c'è guerra senza bombe e senza morti. Ieri ho sentito una lunga contabilità su quanti morti erano e un litigio se erano 2500 o 2065. Ma cosa volete che sia la guerra se non proprio questo? Ed è per questo che bisogna impedire che la guerra continui. Perché poi quando comincia la violenza è facile, anche dalla parte dei migliori, dei più buoni. Anche noi abbiamo tirato una bomba a Hiroshima su tutti quanti i civili in una guerra che era giusta, ma per l'appunto la dinamica della violenza conquista tutti quanti. E allora non vogliamo aiutare gli ucraini? Io credo che li vogliamo aiutare, anzi nel solo modo in cui li possiamo aiutare, e cioè mettere fine a questa distruzione del paese, che poi appunto può diventare distruzione quasi di tutta l'umanità. E cosa bisogna fare? Bisogna fare un negoziato, bisogna fare un compromesso. Dice: ma il negoziato la Russia non lo vuole. Ma il negoziato va preparato, va cercato. Non si può dire che vogliamo impiccare Putin, magari, insomma, proprio impiccare no, ma insomma se lo togliessero di torno sarei felice. Ma insomma, il problema è che non si può pensare che il negoziato si possa fare se continuano a fare cadere tutte le possibilità che ci sono. Anche l'ultimo viaggio che ha fatto il segretario generale dell'ONU, Guterres, a Mosca, subito è stato criticato, ha detto: è andato a Mosca prima che a Kiev. Cioè, se vuoi fare un negoziato vai dalla parte che è più difficile da convincere e quindi vai lì. Ma lui ha ottenuto una cosa che è stata ignorata da tutti i giornali, che dall'altra parte Putin gli ha risposto parlando solo del Donbass e la Crimea. Ma date, è molto, visto che adesso è stato detto che no, voleva pure tutta l'Ucraina conquistarla e forse anche la Finlandia e poi la Moldavia e così via. Voleva dire che c'era una piccola apertura che andava scolta e invece naturalmente è stata abbandonata. Ora io capisco, badate, che i ragazzi ucraini che sono coinvolti nello scontro abbiano bisogno, voglia di avere le armi, perché è un istinto naturale, mi sparano addosso, cerco di rispondere. Quello che mi spaventa è che ci siano dei capi di governo così irresponsabili, e credo e spero che siano un po' consapevoli dei rischi che si corrono, che continuano a soffiare sul fuoco dello scontro, della violenza, della non comprensione di nulla. Questo spavento, e contro questo dobbiamo in tutti quanti i modi combattere. Certo, come si fa? Il compromesso è un compromesso, naturalmente. È un primo passo verso poi un'intesa più generale, che purtroppo è mancata in tutti quanti gli ultimi anni. Questa è una guerra civile che dura da 8-10 anni, e nel 90, quando è caduto il muro, quando Gorbaciov aveva ritirato tutte le truppe del patto di Varsavia da tutti i posti, io ricordo che in Germania rimasero persino meravigliati da quanto aveva fatto in fretta, e allora c'era l'occasione di poter accogliere quello che era stato lo slogan del movimento pacifista: per un'Europa senza missili dall'Atlantico al Pacifico, vale a dire un'Europa che si autonomizza, che prende una decisione e la prende perché va fuori dai blocchi. Invece è stata fatta cadere e si hanno moltiplicato le basi NATO da 12 a 30, così preparando il terreno a un nazionalismo brutto su cui Putin si è conquistato la popolarità che oggi ci rovina. Vedete, ho letto nell'enciclica ultima di Papa Francesco, una cosa che era una storia che io non conoscevo. Mi domando anche perché non ce l'hanno fatta conoscere la Chiesa stessa, perché non l'avevo mai sentito parlare. San Francesco, 800 anni fa, prese il suo bastone e decise di andare a parlare con il nemico. Andò attraversando tutti i Balcani fino a Istanbul per parlare col sultano e per cercare col sultano di intenderci, perché era il nemico nel momento delle crociate. Ecco, io penso che noi dovremmo fare come San Francesco. Fra l'altro adesso i trasporti sono più facili, ci metteremo persino meno tempo. E dobbiamo cercarlo cercando di essere capaci, di prepararci a tutto questo. E non lo stiamo facendo. E allora, vedete, vorrei citarvi le parole del presidente Mattarella. In questi ultimi tempi cito sempre Papa Francesco, adesso cito il Presidente della Repubblica, direte che mi sono convertita ormai al valere il parere delle istituzioni. Non è così, ma francamente li ho trovati di gran lunga i più intelligenti e più lucidi. E Mattarella, vi voglio dire quello che ha detto, una frase, l'altro giorno a Strasburgo. Stranamente il suo discorso non è stato quasi ripreso. Nessuno lo conosce, pochi. I giornali ne hanno parlato citando un altro pezzo del discorso. E lui ha fatto invece un discorso coraggioso. Vi voglio leggere solo una frase. Quanto la guerra ha la pretesa di essere lampo, e non ci riesce, la pace è frutto dell'inarrestabile fluire dello spirito della pratica di collaborazione, della capacità di passare dallo scontro e dalla corsa agli armamenti al dialogo. Pratica fatta di scelte e di comportamenti. Questo comportamenti la dice lunga. Non si può avere i comportamenti guerrafondai che si sono avuti, gli strilli, le urla, e poi pensare che si possa fare una trattativa. La trattativa è per l'appunto lunga. E credo che ci spetti a tutti noi, anche se sono contenta di avere qualcuno dalla parte delle istituzioni che una volta tanto ci dà ragione, vorremmo che ci fosse anche il potere esecutivo, naturalmente, che fosse in questo senso, ma la prima cosa da fare è dire che quello che bisogna sconfiggere è anche la Russia, ma è soprattutto la guerra, e questo è quello che dobbiamo fare. Luciana Castellina. Ecco, mi permetterei di aggiungere una piccola cosa, che quando si deve fare un compromesso, come ci insegna il generale Fabio Mini, non è che bisogna dire a che cosa noi non possiamo rinunciare, ma dobbiamo subito dire a che cosa siamo disposti a rinunciare. Perché altrimenti non è possibile un compromesso se partiamo dai punti irrinunciabili. Mettiamo subito sul tavolo quali sono i punti ai quali vogliamo rinunciare. Perché Gianni Dragoni dobbiamo fare presto a fare la pace? Ci sono, come hanno messo in evidenza l'ONU, la FAO, varie organizzazioni internazionali, tre grandi crisi che sono state accelerate e fatte esplodere dalla guerra, e vediamo adesso l'inizio. La crisi forse più impattante è la crisi alimentare. Perché? Perché la Russia e l'Ucraina sono grandi produttori di soprattutto di cereali, il cartello successivo, il grano, producono il 30% del grano e dell'orzo mondiale, e in seguito alla guerra chiaramente c'è stata speculazione, è più difficile l'export di questi prodotti, ci sono le sanzioni contro la Russia, e infatti il prezzo del grano da dicembre ad aprile quindi è già aumentato del 31%, e vediamo gli altri prodotti agricoli, i prezzi sono a livelli record. Nel primo mese di guerra il grano più 20%, l'olio vegetale più 23%, la carne in media più 5%, ancora andiamo avanti. E la crisi dell'energia, il petrolio, in un anno è aumentato il prezzo del petrolio del 60%, e questo ha un impatto anche sul costo dei prodotti alimentari, perché c'è il problema del trasporto, ma anche sul costo di produzione delle imprese. Andiamo avanti, un'altra: la Russia è il primo esportatore mondiale di gas e infatti il prezzo del gas, del metano, in un anno è aumentato di 6 volte, più 500% e oltre. E ancora il prezzo dei fertilizzanti: la Russia e la Bielorussia esportano 1/5 dei fertilizzanti di tutto il mondo e il prezzo è più che raddoppiato in un anno. Questo aggraverà anche il costo delle prossime campagne agricole, delle semine che sono ancora da fare. E se andiamo avanti con questi dati, l'effetto quindi della fame sulla popolazione: prima della guerra avevamo, secondo l'ONU, 553 milioni di persone che vivevano in grande povertà, cioè con 3 dollari e 20 centesimi al giorno, e altri 215 milioni di persone in povertà assoluta. Quindi andiamo non avanti. Avevano nemmeno i 3 dollari. Non avevano nemmeno i 3 dollari, e un totale di 768 milioni di persone in lotta per la sopravvivenza. Ma cosa è successo dopo la guerra? Dopo l'inizio della guerra, adesso l'ONU dice chiaramente, apertamente, che si è aggiunto 1.700 milioni di persone in tutto il mondo rischiano di morire di fame o anche di freddo, perché vediamo cosa succederà poi col metano col prossimo autunno, con le sanzioni. E in Tunisia un allarme particolare: tra un mese non ci sarà più farina, quindi c'è già un allarme per il pane e per altri prodotti di prima necessità. Tutto questo, 1.700.000 persone che in condizioni di estrema povertà. 107 paesi. 107 paesi. Dove sono? Soprattutto in Africa, 41 paesi, poi Asia-Pacifico, 38 paesi, e gli altri in America Latina e Caraibi. Ecco perché Salvini è preoccupato, insomma, che la guerra finisca presto, perché altrimenti dalla Tunisia senza pane possiamo immaginare quante persone si imbarcheranno verso l'Italia. Allora, da Luciana Castellina è il movimento degli amici di Greta Sara Diena. Qualcuno potrebbe dirci che l'IPCC non è un organismo politico e che dovrebbe solo valutare la scienza relativa ai cambiamenti climatici. Vi assicuro che il cambiamento climatico indotto dall'uomo e la guerra contro l'Ucraina hanno collegamenti diretti e le stesse radici. Si tratta dei combustibili fossili e della dipendenza dell'umanità da essi. Queste sono le parole di Svitlana Krakowska, a capo del laboratorio di climatologia applicata, nonché referente ucraina per l'IPCC. E ancora dice: le emissioni di gas serra hanno modificato l'equilibrio energetico del pianeta. Mentre la facilità di ricevere energia da carbone, petrolio e gas ha cambiato gli equilibri di potere nel mondo. Non possiamo cambiare le leggi del mondo fisico, ma è nostra responsabilità cambiare le leggi della civiltà umana per un futuro climatico resiliente. Un futuro climatico resiliente. Un futuro. Ma a chi importa dei cambiamenti climatici durante una guerra? Chi si interessa del futuro a lungo termine, quando non riesce neanche a immaginare il proprio domani? Come può un governo concentrarsi su politiche ambientali in un contesto internazionale tanto instabile? Riconoscere l'interconnessione tra le due crisi è l'unico modo per coglierne la reale complessità e l'unica via percorribile per risolverle. La guerra in Ucraina non è, o non ancora, una guerra per le risorse energetiche, ma è legata a doppio filo alla nostra dipendenza dal petrolio e dal gas russo. I combustibili fossili sono diventati una sorta di arma di distruzione di massa. È nostra responsabilità riconoscerlo e con coraggio emanciparci immediatamente da questa dipendenza nociva a livello umano e a livello ecologico. L'impatto ambientale dei corpi militari, l'iniqua distribuzione dei finanziamenti tra spese militari e investimenti nella ricerca, le migrazioni forzate che intere popolazioni si troveranno costrette ad affrontare, Questi sono solo alcuni degli aspetti da cui emerge un unico dato evidente. La situazione geopolitica che questa crisi determinerà sarà la mappa delle nostre possibilità climatiche durante gli ultimi anni che restano per correggere le conseguenze di 2 secoli di sviluppo industriale su 10.000 anni di storia umana. Lo sentite? Questo tic-tac. È il tempo che passa. È il tempo che passa mentre armamenti silenziosi oltrepassano i confini per aggiungere guerra ad altra guerra. È il tempo che scorre davanti all'inazione, davanti alla paura e l'incertezza di un futuro tanto fragile. È il tempo di interrompere questo ticchettio incessante. A una guerra fossile guidata dal profitto, vogliamo opporre una pace rinnovata e rinnovabile, che superi le disuguaglianze profondissime della società, che superi la violenza sistemica e il collasso ecoclimatico che stiamo per affrontare e abbracci una volta per tutte la costruzione collettiva di basi nuove come la non violenza e la sostenibilità nel suo significato più profondo e puro. Un altro mondo è possibile perché la guerra è fossile, la pace è rinnovabile. Bene. Allora, adesso vedrete qualcosa che sicuramente domani sarà commentato con grandissime polemiche, perché oggi è l'anniversario della strage di Odessa. Per cui vorrei fare un preambolo a proposito di questa strage. Tutto la scintilla di tutto quello che stiamo vivendo in questo momento in Ucraina parte dall'abolizione del russo come lingua ufficiale, che avviene subito dopo che viene rovesciato, diciamo, il precedente presidente filorusso e si prende questa decisione, diciamo, in Ucraina. Ora, dire che la scintilla sia stata questa non vuol dire che la colpa dell'invasione debba essere attribuita agli ucraini e a questa strage. Perché inizialmente, quando scoppia questo tipo di conflitto in Ucraina, tra elementi filorussi, ma sarebbe più giusto dire russofoni, e elementi che, volendo andare verso l'Occidente, vogliono crearsi un'identità forte con la lingua ucraina, ancora Putin è lontano. E quando uno indica i responsabili che hanno soffiato il fuoco su questa scintilla, io non dimentico che il principale responsabile è quello che è entrato con i carri armati in Ucraina pensando di sistemare le cose così. Però, francamente, siccome questa questione è alla base della nostra visione di Europa, perché in Europa non può essere possibile che una minoranza linguistica venga oppressa per la carta dei diritti che ci unisce, e allora quei famosi accordi che erano stati stipulati, che sentite parlare, dei quali sentite parlare spesso in televisione, ma che nessuno ci spiega mai, che cosa prevedevano? Prevedevano nient'altro che l'autonomia di queste famose regioni confinanti con la Russia, a maggioranza russe. Un'autonomia che doveva essere prima di tutto linguistica, naturalmente, ma poi doveva essere anche dal punto di vista politico una vera autonomia. I garanti di questo accordo si chiamavano Macron e Merkel. Quando hanno capito che questi accordi non venivano rispettati, ma perché cavolo non hanno fatto sentire la loro voce? È chiaro che anche Putin non può approfittare di queste contraddizioni per entrare con il suo nazionalismo espansivo dentro l'Ucraina, ma è altrettanto chiaro che l'Europa non poteva accettare che non venissero riconosciuti questi che sono diritti sacrosanti alla base della nostra carta europea. Questo non è stato fatto, e badate che non è stato fatto nemmeno 15 giorni prima, anzi una settimana prima dell'invasione russa. 15 giorni, due settimane prima in cui è stato ribadito che quegli accordi erano carta straccia. Allora lì si doveva capire che stava per succedere qualcosa di drammatico. Lì l'Europa doveva intervenire, lì doveva intervenire Draghi, lì doveva intervenire Macron, lì doveva intervenire anche la Merkel, che è uno statista di grandi dimensioni, ma in questo caso ha lasciato via libera a quella che il generale Mini ci ha spiegato essere diventata una guerra per interposta persona. Cioè gli ucraini combattono, ma chi si sta fronteggiando sono gli Stati Uniti e la Russia. E allora vediamo questa strage d'Odessa, così capirete di cosa stiamo parlando. Il tema che ho scelto è la propaganda, cioè quel sistema di menzogne senza cui nessuna guerra sarebbe possibile. E in TV ce lo ripetono sempre che questa è anche una guerra di propaganda. Dicono propaganda dall'una e dall'altra parte. Io tutte le volte ci casco e penso che bravi, riconoscono anche i nostri limiti, invece si riferiscono soltanto a quella ucraina e a quella russa e non alla nostra. E se si solleva il problema, molti stimabili protagonisti del piccolo schermo protestano, dicono non è vero che c'è un pensiero unico, in tutti i programmi c'è sempre quello contro la guerra, che è una cosa verissima, ma il motivo di questa apparente contraddizione per cui convivono sia il pensiero unico sia il fatto che, come si dice, ognuno può dire la sua, è squisitamente drammaturgico, cioè dipende dal fatto che l'informazione è sempre più simile alla fiction, cioè una cosa in cui c'è uno sceneggiatore che decide lui se ti devi identificare con la casalinga disperata o con Dexter, il serial killer. E questo è il punto di critica, cioè è vero che tutte le posizioni sono rappresentate, ma la censura, che oggi si chiama linea editoriale, impedisce che i programmi siano pensati da sceneggiatori che pretendano di esercitare appieno i propri diritti costituzionali. C'è sempre uno contro la guerra, semplicemente perché in ogni dramma c'è bisogno di un antagonista e ce n'è bisogno a maggior ragione come quando l'esigenza, come per la pandemia, è quella di riempire molte ore di trasmissione per molti mesi. La funzione dell'antagonista è fondamentale, non solo tiene viva l'attenzione, ma per esempio giustifica il fatto che tu ripeta ossessivamente sempre gli stessi concetti. Devi ripeterli perché evidentemente c'è qualcuno duro di comprendonio, che non si pensi che la ripetizione ossessiva sia il tentativo di imporre il proprio punto di vista o che stai portando avanti una campagna di persuasione in sostituzione del necessario, fondamentale, prezioso, imprescindibile confronto democratico. E dove persistono residui di un modo diverso di concepire il giornalismo come report e presa diretta, questi contributi vengono semplicemente ignorati. Per cui di lunedì apprendiamo che la NATO da anni arma e addestra l'esercito ucraino e di martedì è di nuovo un assalto unilaterale spiegabile soltanto con la follia di Putin. Per questo, secondo me, tra parentesi, molti hanno trovato similitudini tra i pacifisti e i Novax. Sono due gruppi che non c'entrano assolutamente niente, ma svolgono la stessa funzione drammaturgica. La sensazione di déjà vu c'è per quello, perché ricevono anche un trattamento simile, tale che lo spettatore percepisca che se sta da quella parte viene identificato con nemico. Ma la propaganda non è che funziona perché sia convincente. Mentre ci disperiamo impotenti per la violenza atroce che sta subendo il popolo ucraino, siamo pure coscienti che in questo momento nel mondo ci sono ben 169 conflitti e che se le telecamere fossero puntate anche su quelli provocherebbero altrettanta indignazione. Siamo consapevoli quindi che la nostra commozione, angoscia, solidarietà sia provocata ad arte. La propaganda non funziona perché convince, funziona perché fa un po' paura, come fa paura il trattamento che ricevono le persone contro la guerra, spesso in televisione, costrette all'umiliazione di dover dimostrare di non stare dalla parte del nemico. lo dica più forte, che Putin è un animale, più forte, non ha sentito, tipo Full Metal Jacket, palla di lardo, dillo più forte. La propaganda si riconosce perché è spesso ridicola, come quando invitano un giornalista russo e gli attaccano un pistolotto sul fatto che da noi l'editoria è libera, incuranti dell'imbarazzo che provocano negli spettatori italiani. Ma cosa succederebbe se a Mosca lei si schierasse contro Putin? Cosa le farebbero? Ma perché a te che cosa ti succederebbe se pretendessi l'applicazione della Costituzione? O cosa ti sarebbe successo se ti fossi permessa di fare un'inchiesta su Putin quando c'era il governo Berlusconi, o se avessi fatto un'inchiesta su Putin solo 3 mesi fa, quando ancora godeva dell'appoggio di grandissima parte del Parlamento italiano e della nostra classe dirigente? È vero che in Italia, e siamo tutti felici, in linea di massima, non finisci in prigione per un'opinione, ma è vero che tante carriere finiscono per un'opinione sbagliata. E se siamo tutti d'accordo che le dittature sono quei regimi dove si viene perseguitati per le proprie opinioni, siamo anche costretti a ricordare che la democrazia non si caratterizza come un regime dove semplicemente non vieni perseguitato per quello che pensi, ma è un regime in cui la tua opinione conta. E siccome l'80% degli italiani è contrario alla guerra, mentre l'80% dell'informazione è favorevole, o la presenta come ineluttabile, il che è la stessa cosa, siamo qui a dire che il gioco è truccato, che in un momento in cui si decide la fine del progetto europeo, la fine del progetto di riconversione ecologica, per portarci in un conflitto potenzialmente atomico, pretendiamo che la nostra opinione conti. Sabina Guzzanti, vogliamo così ricordare, passando, che c'è un signore che si chiama Assange, che in questo momento rischia 157 anni di carcere, così facciamolo di passaggio. Oltre al fatto che pure io vorrei vedere qualche volta un conduttore della RAI invitato in trasmissioni, al quale viene rivolta per esempio una domanda molto più facile di quella che si rivolge ai giornalisti russi, no? Su cosa pensano il dittatore Putin. Cosa pensate della lottizzazione in RAI? Per esempio sarebbe una cosa molto più semplice da dire, no? Va bene, allora dovete sapere che ai tempi della guerra in Iraq, vi ricordate, tutti tracciati, 1.100.000 morti, facevamo fatica a vedere un morto, sembrava praticamente una festa di fuochi di artificio. Un collega montatore, i montatori stanno sempre nel mio cuore, è una mia piccola passione, diciamo, sono più solidari dei giornalisti in quello che faccio solitamente, mi ha raccontato che aveva montato una copertina per un telegiornale ai tempi di Berlusconi. Aveva montato questa copertina ed era rimasto un morto sul terreno, un po' perché non lo poteva togliere col montaggio. Il direttore si è precipitato per chiedergli di togliere il morto. Togliere il morto perché non si dovevano vedere i morti, che erano 1.100.000, non se ne doveva vedere nemmeno uno. Oggi è una sequela infinita di morti con le telecamere che sono sui morti, e io sono tra quelli che dicono che la morte va mostrata assolutamente, mai celata, perché è quello che fa venire anche la repulsione per la guerra. Ma qui c'è invece una narrativa sottostante, che è quella che il mostro feroce sta facendo tanti e tali delitti che non possiamo non reagire con le armi. Carlo Freccero. Buonasera a tutti quanti. Allora, devo esaminare il telegiornale. Io faccio la differenza tra il primo, tra il telegiornale del primo mese e il giornale di oggi. Cominciamo a esaminare il telegiornale di ieri. La notizia di apertura è sempre la guerra, eccetto proprio in questi ultimi due giorni che è iniziato l'inverno. Ed è come oggi, durante la guerra e la guerra, durante la guerra. Allontanare, ti devi allontanare dal computer, perché sennò prova. Così. Bene. Allontanare vuol dire allontanare, però, Carlo. Allontanare. Così. Bravo, ok. Allora, adesso è meglio. Dicevo allora che a riprova di ciò vorrei raccontarvi il cambiamento che ha avuto il primo delle prime. Un po' più vicino, Carlo, un po' più vicino. Un po' più vicino. Bene, non abbiamo fatto le prove. Adesso va bene, allora. Se rimani così va bene, prova. Va bene, che alcuni hanno chiamato anche innovazione del TG, dove per tre settimane il TG1 ha trasformato la sua copertina in un telegiornale. Cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche modo il TG è diventato monografico, una monografia della guerra, in cui c'era la politica delle sequenze, della gerarchia delle cosa fondamentale, e cattato in qualche modo, inviato dalla Marco Ignaro, che io voglio salutare. Non si sente niente, Carlo, mi spiace, ma è una tortura per chi ti ascolta, quindi che facciamo? O trovi un lo sistema? Più tardi. Prova a fare un altro tipo di collegamento che adesso ti suggeriscono, va bene? E così ti chiamo dopo, però una volta che hanno provato. Esatto. Avevo Grazie. Chiesto di provare e questo non è stato fatto. Posso presentarvi un direttore che in questo momento è diventato il direttore che ogni mattina noi andiamo a leggere con più passione tra tutti quelli che ci sono, che è il direttore dell'Avvenire, Marco Tarquini. Grazie Michele Santoro, buonasera. Dicono che per far finire la guerra bisogna fare più guerra. E a noi, che diciamo che non è vero, che guerra più guerra in Ucraina e ovunque, significa solo un più grande massacro di vite umane e di verità, ribattono. E allora come lo fermate voi, Putin? Lo fermate con le preghiere, con le marce per la pace, con le carovane dei pacifisti, con le missioni della Caritas che portano cibo e medicine in Ucraina e riportano indietro in salvo i disabili e ancora altri profughi. Lo fermate con la diplomazia degli smidollati, disposti a parlare con il criminale del Cremlino. Lo fermate con le buone intenzioni, con le buone azioni, quelle che le nonne, le madri, le maestre ci insegnavano e ancora ci insegnano quando siamo bambini. Ricordati che quando due si picchiano ha ragione solo il primo che smette. Già, perché la guerra è una cosa da grandi, da uomini veri. Pensateci, dove sono finite le foto delle bambine col fucile e dei ragazzini con le Molotov? Evaporate, con i massicci rifornimenti di armi da adulti. Pensateci, dove sono finiti i ragazzi russi di neanche 20 anni? Partiti soldato e non ancora tornati, come canterebbe De Gregori, perché sono morti al fronte, ragazzi dei quali le madri cercano invano qualche notizia in Russia, mentre i loro corpi non vengono accettati indietro dai generali di Putin. Già, amici miei, amiche mie, la guerra è una cosa da grandi e la pace è roba da piccoli, da bambini. Per questo non ne facciamo più di bambini, noi come i russi, e facciamo le guerre, i russi come noi. Magari per procura, le guerre attraverso gli altri, costi quel che costi. Se necessario, constatazione dolente e amarissima di Jeffrey Sachs, fino all'ultimo ucraino. Parole terribili che potrebbero stare in bocca all'uomo del Cremlino e stanno in testa agli strateghi d'Occidente e d'Oriente della nuova guerra fredda. Una volta si diceva perché Dio lo vuole. Oggi c'è qualcuno che si azzarda ancora a dirlo, ma ormai basta dire il popolo lo vuole, anzi quel popolo lo vuole, proprio quello, assolutamente lo vuole. E anche questo è populismo e della peggior specie. Guerra più guerra allora, non per resistere, non per liberare, ma per vincere. E a quel punto, solo a quel punto, quando il tavolo delle trattative sarà stracarico di morti e di dolore, far finire finalmente la nuova e atroce tappa dell'eterna guerra dei grandi che distrugge la vita e la pace dei piccoli. No. Mille volte no. Ma noi che vogliamo pace, chiediamo tregua immediata, come lo fermiamo Putin? Noi che diamo ascolto a Papa Francesco, che chiama i giochi di potere follia, il riarmo una vergogna e la guerra sacrilega, noi che prendiamo esempio da Gandhi, King, Mandela, Capitini, Tonino Bello, anche se quasi tutta gente morta ammazzata o morta troppo presto, noi che crediamo che una resistenza non violenta, persino alla guerra dei carri armati, si può fare, noi che ci emozioniamo e ci mobilitiamo per non lasciare soli i nastri verdi, questi, i nastri verdi dei coraggiosi e dei disarmati obiettori russi al regime di Putin. Noi che ci entusiasmiamo per gli ucraini che affrontano con pura voce, a mani alzate e bandiere, soltanto bandiere, le colonne militari venute da est. Non so più quante volte ce lo hanno chiesto in queste settimane. Voi che vi dite non violenti, come lo fermate Putin? È lo stesso Putin, badate bene, che attraverso i suoi scherani ha sostenuto, ma questo glielo rinfacciamo in pochi, la nave nera, qualcuno la ricorderà, quella che nel Mediterraneo ha dato in lungo e in largo la caccia a chi soccorre i profughi dalla pelle scura, scappati da altre guerre che magari armiamo, ma preferiamo non vedere e non riconoscere. E beh, io rispondo, scusate, ma voi altri, voi che avete l'unica risposta alla guerra e tutte le armi e tutte le strategie e tutte le ragioni e tutti i calcoli giusti, lo avete forse fermato, signor Putin? O vi state facendo suoi soci nella nuova guerra dei mondi? Diteci, voi come lo fermate? Voi che vorreste proibirci anche solo di dire che una terra più piena di armi non è un posto sicuro, ma è un mondo che non sa vivere in pace e non sa vivere la pace e dunque si prepara a far perdere all'umanità la prossima guerra. Quando ero giovane mi ero piazzato davanti agli occhi sulla scrivania una frase di Leo Longanesi che diceva, che dice... Quando potremo scrivere tutta la verità, non ce la ricorderemo più. Era un monito. L'ho tolta di mezzo ormai da parecchio tempo. Il tempo di dire la verità è adesso. È sempre adesso. Nessuno ha la verità in tasca, tantomeno io. E la verità è una strada. Ma ci sono verità semplici. Gli eroi sono quelli che non uccidono, e guerra più guerra non fa pace. Perché secondo lei la NATO dovrebbe essere sciolta? Di fatto, la NATO impedisce all'Europa di avere una propria capacità di difesa e sicurezza. Da oltre 20 anni non è più un'alleanza difensiva. È diventata una minaccia alla sicurezza in Europa. Agli interessi degli alleati antepone quelli degli Stati Uniti. L'articolo 1 impegna le parti a rispettare lo statuto delle Nazioni Unite e a comporre, con mezzi pacifici, qualsiasi controversia internazionale che pregiudichi la pace e la sicurezza. L'allargamento della NATO è stato da subito una controversia internazionale che pregiudicava la sicurezza e la pace. Gli articoli 5 e 6 sulla cosiddetta mutua difesa si riferiscono ai territori dei singoli stati membri minacciati da attacco armato. E l'Ucraina non è compresa. Gli Stati Uniti hanno fatto il loro mestiere e salvaguardato i propri interessi, e tali interessi non sono mai stati coincidenti con quelli europei. Putin non deve essere sconfitto e punito. Sconfiggere Putin significa sconfiggere le forze sul campo e sperare che il suo successore al Cremlino sia meno nazionalista e aggressivo. Se perde, sarà punito senza pietà. Se vince e riesce a conservare i territori occupati in una maniera qualsiasi, non ci sarà nessun processo, come non c'è mai stato per un aggressore vincitore. Gli accordi di Minsk prevedevano l'autonomia del Donbass e non sono stati realizzati. Merkel e Macron ne erano i garanti. Come si sono comportati? Male e in maniera molto ambigua. Hanno chiuso tutti e due gli occhi di fronte allo scempio che Kiev faceva del Donbass, che allora non erano separatiste ma autonomiste nell'ambito dell'Ucraina. Kiev ha interpretato l'atteggiamento dell'Europa come un avallo delle repressioni e misure anticostituzionali che realizzava in Donbass. Secondo lei ci sono margini per trovare una soluzione condivisa che porti alla tregua e alla pace? L'ostacolo principale è rappresentato dal fatto che gli Stati Uniti non vogliono affatto un accordo fra i due paesi. Vogliono l'azzeramento della capacità di aggredire russa, che equivale ad eliminare la sua capacità difensiva. Non esistono forze per aggredire e altre per difendersi. Fiambetta Cucurdia. Buonasera. Buonasera. Poiché non si può parlare di pace, io parlerò di guerra. E poiché tutti parlano a nome di quelli che sanno tutto e sono molto democratici, io mi vorrei calare nei panni di quelli che sono sporchi, brutti, cattivi, gli aggressori, quelli che ci hanno chiamato l'impero della menzogna. Un giorno domandai a Mikhail Gorbaciov: Mikhail Sergeevich, senta, c'è una cosa che io proprio non capisco. Ma com'è possibile che voi, che avete fatto quella guerra terribile contro i tedeschi, adesso siate come fratelli, vi amate, vi credete, vi volete bene? E certo, mi disse lui, tu non lo capisci perché tu sei italiana e tu la storia l'hai studiata sui libri dei vincitori. Ma sai, solo noi e i tedeschi sappiamo chi ha pagato per quella guerra. Hanno pagato loro per la loro disfatta e abbiamo pagato noi per la nostra vittoria. In effetti l'Unione Sovietica l'aveva vinta la guerra, l'aveva vinta, aveva fatto degli accordi a Yalta, Potsdam, Churchill, Roosevelt, Stalin. Avevano deciso che la Germania in qualche modo si sarebbe governata insieme. Però qualche cosa è andata storta e a un certo punto prima è morto Roosevelt, poi hanno buttato la bomba atomica sui ragazzini e i civili in Giappone e si è capito che i rapporti di forza erano cambiati. Poi, 4 anni dopo, Gran Bretagna e Stati Uniti, loro per primi, fecero la Repubblica Federale Tedesca e lasciarono il resto ai russi, che questo resto se lo presero e fecero la Repubblica Democratica Tedesca, ma non avevano le forze, no, perché avevano un paese morto di fame e di guerra, avevano i prigionieri tedeschi per 10 anni a costruire le case invece dei loro uomini che non c'erano più. E dopo un po' di tempo, 10 anni su di lì, si capì che non la potevano tenere sta Germania. Che cosa fecero? Fecero il peggio, fecero il muro. e quel muro ai tedeschi gli è costato lacrime e sangue, ma all'Unione Sovietica e ai paesi dell'Est gli è costato decenni di isolamento. E infatti non è strano che quando è arrivato Gorbaciov, che rivoleva portare il suo paese nel mondo pari, libero, ha dovuto affrontare quel nodo, quel muro, e ce l'ha portato su un piatto d'argento e non ha chiesto niente, non ha chiesto soldi, compensazione, ha detto solo: però non mi portate la NATO ai miei confini. E tutti gli dicemmo di sì, certo, mai oltre la Germania la NATO andrà. Però qualcosa è andato storto. 2 anni dopo crolla l'Unione Sovietica e subito l'amministrazione Clinton manda 3 signori, uno era già lì, ad aiutare i russi a fare il passaggio dall'economia socialista a quella di mercato. Yeltsin aveva i poteri speciali, loro scrivevano i testi e lui firmava. 2 anni dopo la Russia era in ginocchio. La privatizzazione fu un saccheggio, la riforma economica li derubò di tutto e si cominciarono a chiedere in Russia: ma è questo il prezzo della democrazia? È questa la libertà? Se lo chiese pure il Parlamento nel 93 e infatti tolse a Yeltsin i poteri speciali. Dopo una lettera di un povero vecchio che scrisse al Presidente: senta signor Presidente, per favore potete fare una legge per distribuire una pasticca di veleno a tutti i vecchi, così ce ne andiamo e non diamo tanto, non possiamo vivere. E il Parlamento se lo chiese, gli tolse i poteri e poi cominciò la sua battaglia. Ma Yeltsin mandò i carri armati e noi tirammo un sospiro di sollievo, perché Yeltsin vinse, la democrazia vinse, e Yeltsin, la democrazia, eravamo noi. Così visse la Russia fino alla fine degli anni 90, quando anche Yeltsin se ne andò. 1999, l'anno in cui la NATO entrava in Polonia, in Ungheria, in Romania, tutto intorno alla Russia. Andandosene, Yeltsin chiese scusa ai russi, gli disse: perdono perché non ho saputo realizzare il sogno. E portò Putin, Vladimir Putin, l'uomo che oggi è l'autocrate della Russia, l'uomo che forse non abbiamo mai capito tanto bene, ma che un giorno, nel 2018, ci disse: se le cose andranno storte, noi moriremo come martiri, ma loro, noi, moriranno come cani. E ho finito. Comincio a pensare tutti i buonisti che affilano il computer per domani, diciamo. Comunque va bene, ma comunque molti nemici, molto onore, no? Poi questi sono nemici di carta, quindi a noi insomma non è che ci facciano tanta paura. Allora, Dragoni, invece parliamo di fatti, di cifre. L'altra grande crisi, la seconda grande crisi sprigionata come onde sismiche dalla guerra, è una crisi finanziaria. Vediamo l'impatto sull'Italia, il primo cartello. Prima della guerra è la previsione del Fondo Monetario, qui ci sono tante previsioni, ma prendiamo una delle più autorevoli. Il Fondo Monetario Internazionale ha previsto che quest'anno il PIL dell'Italia sarebbe aumentato del 3,8%. Ma a guerra iniziata sono state fatte varie correzioni e adesso si dice rischio recessione. In realtà, come vediamo... Quando si dice rischio recessione vuol dire che la recessione è già cominciata. È già cominciata, perché gli economisti, qualcuno dice, sono bravi a prevedere il passato, non il futuro. E spesso non sono d'accordo neanche su quello. Ma i dati dell'Istat, infatti... di venerdì dicono che nel primo trimestre di quest'anno il PIL italiano ha già una contrazione, meno 0,2%. E poi l'altro effetto devastante che crea difficoltà a tutta la popolazione, almeno alla più povera, è l'inflazione. I prezzi su base annua ad aprile sono già più 6,2%. Questo è un livello di inflazione che in Italia non si vedeva dal 1991, solo 31 anni fa. Andiamo avanti, e l'altra grande criticità per un paese come l'Italia è il debito pubblico. Abbiamo il secondo debito pubblico più alto d'Europa, dietro la Grecia, in rapporto al PIL. A fine 2021 debito pubblico era il 150,8% del PIL. Ogni anno il governo prevede poi che ci sia una riduzione l'anno successivo, e Draghi ci dice, da buon economista, come si esce dal debito? Si esce con la crescita, ma a causa anche della guerra che si è aggiunta alle difficoltà precedenti, Covid e altre tensioni, è già stato previsto che se ci saranno altri 3 mesi di guerra l'Italia perderà 50 miliardi di PIL. Allora cosa vuol dire questo? Che il debito, anziché diminuire rispetto al PIL, aumenterà. E già questo rischio direi che lo possiamo considerare purtroppo acquisito. Quindi fanno 50 più 30. 50 più 30, perché l'altro effetto è che, avendo un debito pubblico, ricordo, siamo oltre i 2.700 miliardi di euro di debito pubblico, con gli interessi, essendo l'inflazione più alta, i tassi salgono, quindi pagheremo circa 30 miliardi in più di interessi nei prossimi 3 anni. Bene, avete sentito già Michele parlare di questo, Odessa, 2 maggio 2014, un anniversario terribile oggi, quello di un eccidio, di un rogo nella casa dei sindacati, in cui morirono arse vive almeno 48 persone che sfuggivano a una folla dove c'erano, bisogna dirlo, squadroni neonazisti. Fu questo uno dei tanti episodi, ma questo fu sicuramente il segnale di una crisi. Ebbene, ci fu il silenzio della diplomazia occidentale, e soprattutto l'Unione Europea si voltò dall'altra parte, disattesi gli accordi di Minsk, e non intervenne per favorire, come doveva, la coesistenza. Quel confine che è il problema oggi, quel confine tra popoli affini, si irrigidisce, diventa un fronte bellico con l'invasione russa, e si apre una faglia. Si apre, anzi ormai a 2 mesi dalla guerra, direi un baratro di una nuova guerra europea. Ebbene, io vorrei insistere soprattutto su una parola: nazione. La nazione è una finzione, è un rovinoso modello per accomunare in base alla nascita, e cioè al sangue e al suolo. È un principio per discriminare il noi dal loro. È una comunità prepolitica di destino. Ed è ciò che ha portato, e lo sappiamo bene, ai conflitti fratricidi nell'Europa. Pensiamo alla penisola balcanica, pensiamo alla guerra trentennale che si è combattuta in Europa nel Novecento. Ebbene, dopo tutto ciò, noi cosa chiedevamo? Chiedevamo coesistenza pacifica. Non era questo il senso ultimo dell'Unione Europea, che avrebbe dovuto, e questo è importantissimo, io credo, diventare una forma politica nuova, una forma politica sovranazionale. Perché in Europa, più che forse in qualsiasi altro luogo, l'altro è veramente il vicino della porta accanto. E io credo che anche gli europei, e pensiamo alle nuove generazioni, a quelle appunto degli ultimi decenni, avevano già cominciato a imparare a coesistere. E allora dov'è l'Europa in cui abbiamo creduto, l'Europa in cui crediamo? Prona agli Stati Uniti d'America, divisa tra gli Stati nazionali in armi, un'Europa suicida che ci sta portando verso questo baratro di una nuova guerra voluta da altri e combattuta per procura. Chi è di sinistra, anziché prendere le parti di una nazione contro un'altra, inneggiando alle armi, dovrebbe assumere il punto di vista che in passato si diceva internazionalista e oggi potremmo dire al di là delle nazioni, perché noi sappiamo bene che ricchi e potenti da una parte e dall'altra se la caveranno e invece tutto sarà a danno da una parte e dall'altra dei più poveri, dei più deboli, degli inermi. Noi, io credo, dobbiamo dire no ai nazionalismi, ma no anche alla logica dei nazionalismi che noi stiamo vivendo anche in questi giorni. Negoziati subito, ma soprattutto non rinunciare assolutamente all'Unione Europea. Vogliamo una Unione Europea però che sia all'altezza del compito per cui è nata, una politica di coabitazione dei popoli. Vi ringrazio. Allora, questa canzone che vorrei farvi ascoltare è una canzone che è stata scritta nel 1954, ha esattamente la mia età. Boris Vian la scrisse questa lettera in forma canzone al presidente di allora francese, che conclusa la guerra in Indocina stava cominciando un'altra guerra in Algeria, chiedendo ancora più soldati, ancora più uomini. Naturalmente fu censurata, come è normale, ma forse i potenti della terra non hanno ancora capito che per far veicolare le canzoni, i libri, le idee, basta mettere la censura e queste passano di bocca in bocca e vanno e viaggiano con le proprie gambe, allora in maniera verbale, adesso in maniera virtuale. E insomma, questa canzone è stata usata da John Baez durante la guerra del Vietnam, poi è stata cantata da tanti altri artisti, in Italia è stata tradotta da Giorgio Calabrese in maniera perfetta, è cantata da prima Ornella Vanoni, Ivano Fossati e tanti artisti nel mondo. Allora, questa canzone, qualcuno potrà dire, è una canzone romantica. Sì, lo è. È una canzone ideologica? Sì, lo è. Qualcuno dirà, perché non invii questa lettera a Putin? Sì, anche a Putin e a tutti i potenti del mondo che bombardano civili inermi e fanno guerre con il culo degli altri. In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato, i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai son sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato mia moglie, il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi se vengono a cercarmi che possono spararmi, io armi non ne ho. Mannoia! Fiorella Mannoia! Dino Iodice, grazie. Grazie mille. Bene, vediamo se Freccero ce l'ha fatta. Eppure ha fatto il direttore della televisione, insomma. Vediamo se... Ma io ho fatto... sei capace di parlare finalmente? Ma io ho fatto migliaia di call in questo periodo, prima col Covid e poi adesso con la guerra. Allora, proviamo a esaminare i TG, se la connessione mi aiuta. E cominciamo dalla notizia di apertura, che eccetto gli ultimi due giorni, cioè il 1° maggio e questa sera, è sempre la guerra. E a riprova di ciò c'è stato nelle prime 3 settimane di guerra un cambiamento molto importante nella struttura del TG1. Cosa è successo? È successo che la copertina del TG si è trasformata nel TG stesso. O meglio, il TG è diventato una monografia della guerra, in cui c'era l'abolizione della sequenza e della gerarchia delle notizie. E cacciato come inviato Marco Ignaro, reo di aver citato l'allargamento della NATO verso paesi baltici, c'erano una susseguirsi di servizi al fronte, di inviati, corrispondenti, fotoreporter e giornalisti arruolati per l'occasione. Lo spettatore non era più in qualche modo aiutato a orientarsi, ma era avvolto dall'emozione, dal dolore per l'invasione. Oggi, superato questa innovazione, se volete, del TG1, nel TG, dopo mediamente 15, 16, 17 minuti di guerra emotiva, come ho detto prima, segue la notizia del giorno, solitamente Draghi, oppure la reduzione del Covid. Poi si passa alla cronaca, che non è mai casuale, ma si adegua all'agenda attuale del politicamente corretto, cioè rispetto del genere, ecologia, agenda verde, eccetera. Altro punto importante, l'insistenza su una rosa temi molto ristretti. Voi sapete che è tipico della propaganda, che si caratterizza, come ha detto prima Sabina, con la ripetizione e l'uniformità dei temi. Questa ripetitività si unisce con un tratto apparentemente opposto, tipico invece del TG, cioè la mancanza di continuità della narrazione. E ogni notizia è data come tale, perciò senza approfondimento. Altro punto. L'ultimo, perché guarda, ti stiamo seguendo con un affetto infinito, però qui cioè, non sappiamo che, cioè, se vale di più l'affetto che abbiamo per te o il fatto che ci stai facendo soffrire le pene dell'inferno con un collegamento che non si sente praticamente niente. Peccato. Quindi dacci la benedizione finale, Carlo, perché dopo averci dato l'estremunzione, perlomeno allora dacci... chiedo scusa. No, perché ho fatto l'analisi, era molto approfondita, per cui chiedo scusa. Ma lo recuperiamo tutta, te la faccio fare io, questa volta con un collegamento pulito, e la mettiamo per tutta Italia così si possa ascoltare. Ciao, però ciao. Per il momento è solo il nostro affetto che ci possiamo mandare. Ciao. E ascoltiamo invece Tommaso Montanari, che ha un microfono efficace. Prego. Padroni della terra, vi scrivo queste righe che forse leggerete se tempo avrete mai. Lontano me ne andrò, sul mare e sulla terra, per dire no alla guerra a quelli che vedrò. E li convincerò che c'è un nemico solo, la fame che nel mondo ha gente come noi. Questa è la traduzione di Luigi Tenco della stessa meravigliosa canzone di Boris Vian che Fiorella ha meravigliosamente cantato in quella invece di Calabrese che tutti conosciamo grazie a Fossati e ad altri. Ed è triste dire che la versione di Tenco, per molti versi, è ancora più aderente alla realtà di oggi. Non signor Presidente, ma padroni della terra. Già, perché mentre questa guerra che le nostre democrazie occidentali dicono di stare combattendo per procura, fino all'ultimo ucraino, in difesa della democrazia, è una guerra di padroni, di potenti. Gli stessi potenti, gli stessi padroni che distruggono il clima e condannano a morte il pianeta. Non custodi, come vorrebbe Francesco, ma padroni. Il capo del nostro governo, il governo dei migliori, ci ha detto che siamo entrati in un'economia di guerra. Bontà sua ce l'ha detto. Che siamo entrati in guerra con la Russia, quello no, non ce l'ha detto. E il Parlamento? Siamo sull'orlo dell'olocausto nucleare e la nostra Repubblica, che dovrebbe ripudiare la guerra e cedere sovranità a organizzazioni come la NATO solo in condizioni di parità, ci dicono, citatelo tutto l'articolo 11, eccolo, in condizioni di parità. La nostra Repubblica, invece, è una delle potenze che corrono verso la guerra atomica. Altro che costruire giustizia e pace. Ma il Parlamento non ne discute. Il governo non parla alla nazione. Ci dicono che siamo in guerra per la democrazia. Ma dov'è la nostra democrazia? Il Papa ha chiesto a tutti noi, di qualunque fede siamo, di continuare a manifestare che la pace è possibile. E ha supplicato: i leader politici, per favore, ascoltino la voce della gente che vuole la pace e non un'escalation del conflitto. Ma chi ascolta nelle nostre famose democrazie la voce della gente? I padroni della terra decidono, la povera gente muore. Gli ucraini, invasi da un despota sanguinario. I soldati russi, mandati al macello da quel despota. È sempre stato così, lo sappiamo, in ogni guerra. Il potere di aprire e far cessare le ostilità è esclusivamente nelle mani di coloro che comunque non combattono e non muoiono. Lo ha scritto Simone Weil. E Trilussa, nella sua Ninna Nanna del 1914, scritta alla vigilia della Grande Guerra, ci diceva già che domani rivedremo i sovrani, oggi diremo i padroni della terra, Biden e Putin, che se scambiano la stima, buoni amici come prima, e riuniti fra di loro, senza l'ombra d'un rimorso, ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro per quel popolo coglione risparmiato dal cannone. Ma oggi ci chiediamo: ci sarà un domani? Qualcuno sarà risparmiato? Tra potenze nucleari non ci sono guerre giuste, perché non ci possono essere vincitori, ma solo macerie radioattive, e nessuno a piantarci una bandiera sopra. Nel 1965, Don Lorenzo Milani, nell'Obbedienza non è più una virtù, che era il suo discorso in difesa dell'obiezione di coscienza contro i cappellani militari, scriveva: di fronte alla minaccia nucleare la guerra difensiva non esiste più. Allora non esiste più una guerra giusta né per la Chiesa né per la Costituzione. E nel 2020 Papa Francesco, in Fratelli Tutti, scrive: di fronte allo sviluppo delle armi atomiche, chimiche e biologiche, non possiamo più pensare alla guerra come soluzione, dato che i rischi probabilmente saranno sempre superiori all'ipotetica utilità che le si attribuisce. Davanti a tale realtà, Oggi è molto difficile sostenere i criteri razionali maturati in altri secoli per parlare di una possibile guerra giusta. E questo è il Papa. E noi diciamo: l'unica guerra giusta è quella che non si fa. Fermatevi. Oggi tutti noi gridiamo ai pochi maschi, anziani, ricchi che sono i padroni della terra: fermatevi. Non siamo organizzati, non abbiamo rappresentanza, non abbiamo democrazia, ma sappiamo di rappresentare l'intera umanità. Ricordate il film Don't Look Up? I padroni della terra dicono che la cometa non arriverà, ma è già sopra di noi. E quella cometa è la guerra atomica. Fermiamo i padroni della terra, fermiamo i signori della guerra, fermiamoli finché è possibile. Tommaso Montanari. Allora, intanto fammi ricordare Paul Morera, che il giornalista che sta vedendo, e fareste bene a vedere tutto il suo lavoro su internet, perché si chiama Le maschere della rivoluzione e ci spiega benissimo quali sono le premesse di quello che sta succedendo oggi. Allora, Gianni, quali catastrofiche cifre adesso devi aggiungere a quelle che già hai dato? E il terzo grande shock, sono tre per ora, quindi questo almeno è l'ultimo, è quello energetico. Prima della guerra i paesi dell'Unione Europea, vediamo il cartello, importava dalla Russia il 40% del gas, soprattutto Germania e Italia sono le più russo dipendenti, e il 27% del petrolio. E vediamo allora l'effetto che a causa della guerra, il rincaro, l'impennata dei prezzi, solo in 4 mesi, da dicembre ad aprile, il prezzo del gas è aumentato quasi del 50% e quello del petrolio poco meno, più 46%. Andiamo avanti. E le previsioni di crescita del PIL per quest'anno, prima della guerra, erano a livello internazionale, per l'Europa, diceva il Fondo Monetario, più 3,9%, per il mondo più 4,4%, ma cartello successivo, dopo la guerra queste previsioni sono state tagliate di circa un punto in meno, quindi in Europa più 2,8% del PIL, mondo un punto è tanto, vorrei dire, è tanto, non è che perché sembra un punto. Un punto su quattro vuol dire un quarto, ma poi un punto per volta si scivola nella recessione, come vediamo, e probabilmente queste previsioni andranno ancora abbassate. Andiamo avanti, ma intanto Michele, il governo Draghi con un decreto legge ci ha detto che i condizionatori non dovranno raffreddare l'aria al di sotto del 25. Ma quello bisognerebbe farlo comunque. Sì, forse non c'era bisogno di una guerra per arrivare. Per arrivare a queste conclusioni, diciamo. Però sai, Draghi è un tecnico, quindi ci mette un po' di tempo, non è che... Allora. E quindi quali sono però le conseguenze? Non sono solo sui prezzi, ma sono anche sull'ambiente, conseguenze devastanti, perché di fronte a questi problemi del rincaro del gas, petrolio, più uso del carbone, è stato messo in secondo piano l'obiettivo dell'accordo di Parigi, ridurre la crescita della temperatura della Terra. Vai e quindi riapriamo le centrali a carbone, cartello successivo, e poi un aumento dell'utilizzo dei combustibili fossili che sono i più inquinanti e più dannosi. Bene, allora la regia può mandarci Bergonzoni? Via. Cosa ci ha preso? Che maledizione ci sta abituando al conflitto? Quale cinismo ce ne fa parlare con un'assurda normalità in ogni trasmissione? O peggio ancora, con la monolitica certezza di armare ancora l'ennesima potenza senza avvertire il fatto che vi sia sotto qualche cosa di molto rischioso, di molto più devastante e ineluttabile in questo arsenale di follia senza fondo. Sanzioniamo, boicottiamo, interrompiamo le reazioni economiche di un mercato con questi tirannosauri non ancora purtroppo estinti. Questo però chiede sacrifici, privazioni, disagi e perdita di benessere a cui siamo stati abituati per privilegio. Siamo pronti? Chi crede alla pace deve esserlo ancora di più di chi è convinto che solo alimentando il mercato delle armi e soprattutto il suo uso si possa porre fine agli eccidi nel pianeta. Il pacifismo di cui oggi pare ci si debba vergognare è fatto anche di questi gesti che non hanno nulla di passivo e inerme, ma solo di sacro, come la pace stessa. Ragionare, osare, parlarsi, ascoltare, trattare, compreso preghiera, meditazione, marce, manifestazioni, incontri nelle scuole, teatro, cultura. Si può e si deve continuare a cambiare la logica della guerra, delle parole potere, dominio, orrore, vendetta. Il diritto alla pace, alla libertà, alla giustizia passa per queste possibilità inesauribili a cui ci dobbiamo affidare se vogliamo cambiare ciò che la storia non ha insegnato. Sangue versato per guerre giuste, necessarie, democratiche, addirittura sante. Questa potrebbe chiamarsi resistenza e liberazione. Non solo un giorno l'anno, ma una continua ricorrenza quotidiana, pubblica ed intima insieme. Scordando l'arte della guerra, magari chiedendo sempre solo e soltanto arte, col desiderio della terza pace mondiale. Dio mio, ma che cosa è successo, Dio mio? Aylan, il piccolo Aylan, lo hanno trovato sulla spiaggia, solo, freddo, con la guancia dolcemente appoggiata sulla sabbia. È scappato dalla guerra, ma non ha trovato casa. E Josephine, ora infinite perse nel Mediterraneo, tutto intorno era naufragato. E lei voleva vivere, oltre l'abuso, oltre la solitudine, oltre la sconfitta, perché dentro di sé portava un altro fiore per questo mondo. E poi Anna raccontava sulle pagine dei giornali la violenza di un sistema immondo, ma gli hanno tolto l'inchiostro e le pagine e la vita. A quando un servizio pubblico che informa più che guerra fondare? Ti ricordi Luca? Lui e la sua famiglia erano l'immagine dell'Italia in Africa. Lo volevano essere insieme, come famiglia, con le sue piccole, ma gli hanno impedito di inaugurare una scuola, un luogo di crescita per il futuro. Fa paura alla guerra e alla violenza, la cultura. Alidad mi ha sempre affascinato. Giovanissimo, profugo dall'Afghanistan, perde la famiglia e a 10 anni o poco più parte per il suo esodo di liberazione e attraversa l'Iran, la Turchia, la Grecia, arriva in Italia e trova il senso del suo vivere. Porto con me il volto di Silvia, bellissima, giovane, devastata in Argentina, in quei giorni in cui quell'efferata dittatura cancellava la vita dei giovani, giovani limpidi e dritti, giovani liberi e intensi. Carlo, gettato su un selciato dopo le torture, vittima di un sistema violento e connivente che ignora la trasparenza e con cui facciamo buoni affari anche con le armi. E con lui Evelyn, 23enne, nigeriana, ricattata, usata, abusata, picchiata, strangolata, gettata ai bordi anche lei di una strada come uno straccio sporco e inutilizzabile. Rita mi travolge. Nella sua adolescenza, schiacciata dal peso di una criminalità che aveva colpito il suo Paolo, con cui si era trasformata in testimone di giustizia. Quante vittime! Un elenco infinito. Vittime di violenza, vittime della guerra, vittime dell'ingiustizia, vittime dell'indifferenza. Però una cosa la so per certo. La pace non ha bisogno di vittime. Nessuna cronaca ne parla. Nessun saggio ne ha mai trattato, nessuno di noi ne ha testimonianza, perché la pace non è inganno e nemmeno prepotenza, non è sopraffazione e nemmeno danno, non è oppressione e persecuzione, ma è occasione di vita, una vita altra, generativa, creativa, e chiede almeno 3 cose, e chiede a me, a voi. La prima, smettila di girare intorno a te, come se tu fossi il centro del mondo. Prova a partire, sì, prova a partire, non a scappare, come un vigliacco. Ma cerca di avere il fiato buono di un camminatore, perché c'è tanta strada da fare. La seconda cosa che ci chiede è scegli dei buoni compagni di strada e non lasciare indietro mai nessuno. Infine, apri, apri la tua testa e il tuo cuore alle idee degli altri, anche se non sono quelle che tu condividi fino in fondo. Sono però capaci di destrutturarti per ricercare una nuova sintesi comunitaria. La pace ha bisogno di gente che sa vedere oltre le righe storte della storia, del colore cachi dei generali, del colore grigio delle armi, del colore nero della morte. Ha bisogno di protagonisti, di artisti, di inventori, di creativi, di visionari, di artigiani. Quella strana idea pacifista, imbelle, no? Ci descrivono così, che scarica la responsabilità e le sofferenze sempre sugli altri e che non ha il coraggio di resistere. È una strana idea accanto a tante altre menzogne, che la realtà però sconfessa. So per certo un'altra cosa, che chi accetta la logica della violenza, della guerra, procura dolore, procura un sacco di sofferenza, procura distruzione, ferite, morte agli altri. Vuole e deve vincere, cioè sopravvivere all'altro, nonostante l'altro e normalmente contro l'altro. Et illesum, giovane 29enne diceva dal lager di Auschwitz, esistiamo per prendere su di noi un po' del dolore del mondo, offrendo il nostro petto, non per moltiplicarlo questo dolore, facendo a nostra volta violenza. Chi vive la non violenza prende su di sé le sofferenze e cerca almeno con dignità di non procurarne altre. Ama e fa in modo che questo amore soffochi la vendetta e la ritorsione, l'odio, il rifiuto, previene, senza cadere nel baratro dell'idiozia di una guerra o di un conflitto scatenati e ingestibili. Custodisce e ritesse i rapporti, anche quelli sfilacciati, strappati, perché sa che sono fondamentali per il domani. Vuole giustizia, non prevaricazione, leggi uguali per tutti, non disposizioni emergenziali, diritti e doveri, non ordini e comandi. Esige bellezza e contempla la diversità dei volti, senza ridurlo a ideologia. Mi affascina da sempre l'inizio del testo biblico, quei primi quattro capitoli della Genesi, dove si narra all'inizio la bellezza del cosmo che è tessuto attimo per attimo con infinita passione, poi la fatica dell'umanità che subito perde l'innocenza cercando di possedere ciò che già ha, e questo lo strano, e infine il marchio di una fraternità difficile, quella di Caino e Abele. In queste poche pagine tre domande restano a mio avviso il monumento di un'antropologia della pace. La prima, Adamo, dove sei? Dove siamo noi umanità? Dove siamo? La seconda è, dove è tuo fratello? Ma ne hai ancora? O li hai persi di vista tutti? E la terza, che cosa hai fatto? Quali gesti e azioni ti descrivono? Il creato, basta respirarlo, vederlo, gustarlo, ci insegna a vivere. Che non significa sempre vincere, vivere, anzi. Con pazienza dobbiamo vivere, con fiducia infinita. Cambiano le stagioni e all'estate segue l'autunno e all'autunno l'inverno e poi la primavera. E infine la stagione dei frutti. Ed è impossibile fermare questo flusso meraviglioso. Cambiano anche le persone, sì. E alla stagione delle connivenze, delle violenze, dei silenzi vigliacchi, delle illegalità, degli affari sporchi, della brama di potere e della ricchezza dell'egoismo e degli affari di casa o di cosa nostra, arriva la stagione della giustizia, della liberazione, dell'amore, della non violenza, della disobbedienza civile alle leggi ingiuste, dell'accoglienza, della condivisione, del disarmo dei cuori e delle mani, della ricostruzione della fiducia. Perché si ricomincia e si ricomincia solo insieme. Questa è l'umanità che mi piace. Mi piace e piace anche al Dio in cui credo e che ha ascoltato la voce degli oppressi e degli schiavi e li ha liberati, non è stato a guardare. Una umanità capace di resistere, di sperare, di cambiare, di crescere, di fare i conti con la carne, con il sangue, con il sudore. Irriducibile verità, indiscutibili. Perché è parola generatrice e sguardo pieno di amore. Una umanità capace di dimostrare, senza grandi gesti, senza inutili eroismi e senza bisogno di apparire sui rotocalchi o all'interno di violenti dibattiti televisivi, che è possibile vivere. E vivere in piedi, insieme, anche nei momenti peggiori. Grazie. Don Fabio. Allora, siccome praticamente io sto diventando un raccoglitore di notizie, diciamo, in questa situazione, perché tutti mi scrivono, perché non dici questo, perché non dici quello, una cosa che ho appreso, che vi lascerà sbalorditi, almeno io sono rimasto attonito, è il fatto che il cattivo, che sarebbe il capo della Chiesa ortodossa russa, e i buoni sarebbero quelli della Chiesa ortodossa ucraina, che si sono separati. Ma la notizia che io ho appreso è che non si sono separati dopo l'invasione, ma si sono separati prima. E si sono separati, tra l'altro, gli ucraini con un bel appoggio da parte degli Stati Uniti, cioè un appoggio economico potente per fare questa scissione. E va bene, fino a qui è normale, gli americani sono per la libertà di culto, mentre ovviamente in Russia la libertà di culto non c'è. Ma, o perlomeno non c'è, perché insomma Putin e Kirill si mettono d'accordo, per cui tutti devono pregare allo stesso momento in Russia, mentre in Ucraina ognuno prega quando gli va. La cosa più interessante è che è stata fatta una legge, addirittura una legge, per cui i cappellani militari possono condurre le truppe in battaglia. Le truppe in battaglia. Cioè, voglio dire, tanto per dire che sono stati presi di sorpresa dall'attacco dei russi. Evidentemente i due nazionalismi erano ben l'un contro l'altro armati. Anche perché sette giorni prima dell'invasione di Putin c'è stato un bombardamento del Donbass. Biden ne era a conoscenza e questa cosa è stata trascurata, noi non l'abbiamo nemmeno portata, diciamo, nei nostri telegiornali. Se l'avessimo fatto, probabilmente Draghi sarebbe corso a cercare di trovare una soluzione prima che l'affare diventasse praticamente irrefrenabile. Ma questo non è avvenuto, tutti sono stati a guardare. C'era l'annuncio di questa invasione, i grandi della terra hanno aspettato che avvenisse. Ascanio Celestini. Salve. Io non parlo di politica, geopolitica, neanche di geografia, insomma. Racconto storie, storielle, per cui racconto una favola. Che ve ne accorgerete come quando comincia e quando finisce, perché comincia come tutte le favole, c'era una volta e vissero felici e contenti. Quindi c'era una volta un piccolo paese. In questo piccolo paese arrivò un piccolo sindaco, il piccolo sindaco entrò dentro la sua nuova casa, poi entrò, uscì, poi rientrò, poi riuscì. C'era qualcosa di strano in questa piccola casa del piccolo paese, del piccolo sindaco. E la cosa strana è che non c'era la porta. Allora lui andò dal piccolo falegname e gli spiegò che gli serviva una porta. Ma il piccolo falegname gli disse: ma che ci fai con sta porta? Poi come fai ad entrare dentro casa? E lui dice: ma io apro la porta, poi entro dentro casa, poi richiudo la porta in maniera che non entrano i ladri, gli assassini. E il piccolo falegname gli disse: allora vai dal muratore, ti fai murare l'entrata di casa, così te ne vai lì dentro e non entra più nessuno. Sì, vabbè, gli disse, il piccolo sindaco era simpatico peraltro, era un allegro, carino, insomma, faceva proprio simpatia. Gli disse: sì, vabbè, ma io poi dopo voglio riuscire da quella porta e poi quando esco vorrei che si richiudesse la porta in maniera che non entra nessuno. Insomma, il piccolo falegname non capì per quale motivo sto piccolo sindaco voleva una porta. Però il piccolo sindaco tirò fuori i soldi e quindi gli convenne al piccolo falegname di costruirgli la porta. Solo che sta porta si apriva, si chiudeva a ogni poco di vento, sbatteva, dava pure fastidio, faceva una gran caciara. Così allora il piccolo sindaco andò dal piccolo fabbro e gli chiese se gli poteva costruire una maniglia, mettergli un chiavistello, una chiave. Pure il piccolo fabbro non capì per quale motivo questo voleva chiudere la porta. Già era strano che avesse messo una porta, mentre gli altri piccoli cittadini del piccolo paese la porta non ce l'avevano, cioè avevano l'entrata, si entrava e si usciva. Ma alla fine il piccolo sindaco tirò fuori i soldi e il piccolo fabbro si convinse che tutto sommato gli conveniva costruire a questa porta, mettere a questa porta una maniglia, un chiavistello, una serratura, una chiave. Il piccolo sindaco del piccolo paese era molto simpatico, faceva simpatia ai piccoli cittadini del piccolo paese, che però lo prendevano in giro perché era l'unico che c'aveva sta porta e faceva una gran fatica ogni volta ad entrare, ad uscire. Il piccolo sindaco però voleva convincere tutti a mettere la porta alle loro case, non riusciva a convincerli perché chiaramente era uno contro tutti, ma a un certo punto vennero in aiuto del piccolo sindaco, il piccolo fabbro e il piccolo falegname, che non erano per niente convinti che fosse una buona soluzione quella di mettere la porta alle case, però sapevano che ci avrebbero guadagnato un sacco di soldi, perché poi tutti quanti avrebbero speso per costruirsi la porta e per metterci la chiave. Alla fine tutti i piccoli cittadini del piccolo paese misero la porta, anche se non erano tanto convinti. Un giorno, un brutto giorno, arrivò un ladro e rubò in una piccola casa del piccolo paese, ad un piccolo cittadino, non che nel piccolo paese non ci fossero mai stati i ladri, avevano rubato già altre volte, solo che stavolta era veramente grave, perché avevano rubato nella casa di un piccolo cittadino del piccolo paese che ci aveva messo la porta con la serratura, con la chiave, col chiavistello. Allora, ovviamente i piccoli cittadini del piccolo paese si dettero la colpa uno con l'altro, se è stato tu, non è stato tuo cugino, non è stato il mio vicino di casa. Il piccolo sindaco del piccolo paese, che era simpatico, un po' tonto anche, buffo, però alla fine faceva simpatia a tutti, e li mise d'accordo con un'idea geniale. Gli disse: il ladro deve essere uno straniero. Qualcuno gli spiegò che questa paura dello straniero facilmente diventa odio nei confronti dello straniero, però invece il piccolo sindaco del piccolo paese, buffo, un po' scemo, tracagnotto, simpatico, però ci aveva avuto una grande idea, perché effettivamente, pensando che il ladro fosse straniero, attorno alla simpatia che era cresciuta attorno al sindaco ci fu anche una gran solidarietà. Così allora i piccoli cittadini del piccolo paese dissero: la porta era una grande idea, mettiamo una porta al piccolo paese. Ma adesso per un paese mettere una sola porta è un po' complicato, insomma non riesce a difendere un paese. Così costruirono un muro, un grande muro attorno al piccolo paese. Attorno al piccolo paese nelle campagne c'era un sacco di ladruncoli, gentaglia, non troppo pericolosa, però quando sta gentaglia si accorse che non solo i piccoli cittadini del piccolo paese avevano messo le porte alle loro case quando non c'eravano mai avute, ma avevano costruito anche un muro, pensarono che forse nel piccolo paese c'era qualcosa di prezioso, allora assaltarono il piccolo paese, ma i piccoli cittadini del piccolo paese avevano costruito un bel muro e il muro resistette all'attacco di questi manigoldri, di questa gentaglia. Solo che i piccoli cittadini del piccolo paese e il piccolo sindaco, che nel frattempo era diventato un grande eroe per il piccolo paese, pensarono che se fossero arrivati dei soldati veri, un esercito veramente potente, il muro non avrebbe resistito. Così costruirono un muro più alto, con triple file di merlature, torri, torrette. E poi i piccoli cittadini del piccolo paese erano per appunto muratori, erano fabbri, erano falegnami, erano fornai. E la guerra è un mestiere, bisogna imparare a farla. Così il fornaio smise di fare il pane, il fabbro smise di fare chiavi e chiavistelli, e tutti diventarono soldati. A quel punto nessuno si avvicinò più al piccolo paese. Avevano abbattuto le case perché bisognava reperire il materiale di costruzione, i mattoni che c'erano nel piccolo paese non bastavano, così avevano buttato giù le case, le librerie, le biblioteche, avevano buttato giù, vabbè, i teatri, quelli figuriamoci, insomma, però avevano buttato giù le chiese, avevano costruito un muro gigantesco, enorme. I piccoli cittadini del piccolo paese, che erano diventati tutti soldati, stavano lì affacciati alle loro torri, guardavano lontano, non si avvicinava più nessuno. Un giorno di maggio o aprile, un giorno qualunque, era una bella giornata, il piccolo sindaco del piccolo paese, che ormai era diventato una divinità nel piccolo paese, invece di guardare all'orizzonte, che tanto non arrivava nessuno, si guardò attorno, guardò dentro il suo paese ed era contento, perché era un paese che finalmente poteva essere difeso. Era un enorme, un gigantesco, un inespugnabile muro che difendeva un deserto. E tutti, tutti vissero felici e contenti. Gianni Celestini. Bene, allora Gianni, una roba veloce, dai. Sulle armi. Le armi, la spesa delle armi, per le armi nel mondo nel 2021 è aumentata per il settimo anno consecutivo. Chi è che spende di più? Gli Stati Uniti, 800 miliardi di dollari, pari da soli al 38% della spesa mondiale. Vediamo l'effetto della guerra sulla borsa americana. nel primo trimestre anche negli Stati Uniti il PIL è diminuito dell'1,4% e la borsa di New York ha perso quasi il 10%. Dire che nemmeno gli americani se la passano bene, non abbiate questa sensazione che la guerra stia andando bene per quelli che stanno sotto negli Stati Uniti, è un guaio anche lì. E infatti gli analisti ma si aspettavano qualcuno, più uno, ma qualcuno ci guadagna, gode. Vediamo chi? Ci sono per esempio due aziende, una si chiama Lockheed Martin, ha il valore in borsa dall'inizio dell'anno al 29 aprile è aumentato di 20 miliardi di dollari, un'altra si chiama Raytheon e il valore in borsa è aumentato di quasi 12 miliardi di dollari. Indovinate che cosa fanno queste due aziende? Beh, lo per sappiamo, esempio, fanno dei missili, anche quelli che Biden ha mandato per aiutare gli ucraini, fanno gli F-35, fanno armi. Anzi, li ha riuniti per dire fate presto, producete di più. Sì, quindi adesso vuole altri 20 miliardi Biden per mandare armi. E anche in Italia la borsa di Milano ha perso il 12,5% dall'inizio dell'anno, ma una delle aziende che ha guadagnato di più è Leonardo, ex Finmeccanica, che fa l'80% armi, difesa. Saranno contenti tutti gli ex politici che sono stati infilati là dentro, no? Saranno contenti, perché insomma... Va bene, allora, siamo felici, scatenati, Moni Ovadia! Trafficando nella rete ho scoperto questo, è di una giornalista statunitense, si chiama Lara Logan, giornalista da 35 anni, anche inviata di guerra, celeberrima per una sua trasmissione dal titolo 60 Minutes. E lei ha fatto interviste e dichiarazioni che sono state definite bombe di verità cadute sulla Casa Bianca. Io ho scelto un pezzettino che parla del battaglione Azov e dice: vedi la disonestà quando si tratta del battaglione Azov, che è finanziato dagli Stati Uniti e dalla NATO. Puoi trovare le loro foto online con in mano la bandiera della NATO e la svastica. E allo stesso tempo indossano un emblema che contiene il sole nero dell'occulto, che era un emblema delle SS naziste, e contiene anche simboli come il lampo delle SS. Questo è presente in tutto l'esercito ucraino. Puoi vedere quel sole nero dell'occulto sui loro giubbotti antiproiettile, perfino sulle divise delle soldatesse fatte sfilare davanti al mondo come esempio dell'indipendenza, dello spirito e della nobiltà ucraina. La Casa Bianca vuole che tu creda che questo non ha importanza, che è solo un piccolo numero di soldati. Non è vero. Il battaglione Azov si è fatto strada uccidendo nell'Ucraina orientale. Non vogliamo ammetterlo. Questo è il motivo per cui la Crimea ha votato per l'indipendenza. Questo è il motivo per cui ha voluto stare con la Russia. Perché noi, dei media e in Occidente, non riconosciamo la realtà di ciò che sta succedendo. Sotto il profilo storico, spiega Lara Logan, l'Ucraina occidentale ha sostenuto i nazisti. Era un quartier generale della SS. La CIA e Allen Foster Dulles, il segretario di Stato di quel tempo, hanno dato l'immunità ai nazisti ucraini ai processi di Norimberga. Quindi c'è una lunga storia degli Stati Uniti e delle nostre agenzie di intelligence che finanziano e armano i nazisti in Ucraina. Cioè, non sono un gruppo di ragazzi valorosi che leggono Kant. Sono i discendenti degli ucronazisti che collaborarono con le SS, erano 250.000 e sono stati responsabili naturalmente delle atrocità che immagino tutti conosciate. Ma il punto su cui volevo chiamare la vostra attenzione è l'operazione di perversione simbolica di cui è complice il nostro mainstream. Cioè dice che la svastica l'hanno scelta questi ragazzi che leggono Kant o ascoltano Kant perché è un simbolo runico. Ora, dire questa cosa è secondo me un'operazione criminale, cioè dire che in Europa, in Ucraina, dove sono stati assassinati centinaia di migliaia di ebrei, comunisti, rom, anarchici, via dicendo, sotto la svastica, loro l'hanno scelta perché è un simbolo runico. Non solo questa è una spaventosa presa per il culo, ma potrebbe avere conseguenze devastanti sulla rinascita in Europa di forze naziste. Ora, questa non è una giornalista della Pravda, non è una giornalista dell'Isvestia. La signora Lara Logan ha lavorato per CBS, CNN e da ultimo per Fox News. Solo che questo è un esempio di quello che è il giornalismo anglosassone. Mentre i nostri, non tutti con le debite eccezioni, però giornalisti non sono più. Sono semplicemente velinari su ordine del governo degli Stati Uniti d'America. E da ultimo vi voglio dire questa cosa. Di questi fatti, svastiche esibite e mistica, perché hanno anche il cerchio nero magico, che era delle SS, guarda, le autorità delle comunità ebraiche internazionali non hanno detto niente. Però quando io difendo i diritti dei palestinesi, mi dicono che sono un ebreo antisemita. Allora, capite che livello di perversione abbiamo raggiunto. E ci voleva anche Lavrov, che ha detto una delle cose, l'idea che Hitler fosse di origine ebraica. Ha circolato, è una di quelle storie che fanno colore. Io non so se fosse di origine ebraica, ma prima di tutto un ebreo, un uomo, ci può essere anche un ebreo, faccio un nome a caso, Zelensky, che pur sapendo queste cose fa finta di niente perché evidentemente gli conviene altro. E adesso vi dico una cosa, c'è un libro, potete leggerlo, è un Newton Compton che racconta gli ebrei, magari erano Mischling, un nonno ebreo, due nonni ebrei, hanno combattuto nella Wehrmacht e c'erano anche ebrei che erano negli alti ranghi, sospettati di origine ebraica, per esempio il vice di Göring, e persino era sospettato di avere un nonno, un bisnonno ebreo, Reinhard Heydrich, quello che si è inventato la soluzione finale. Per cui basta retorica, basta bugie sanguinose e basta, come dire, prenderci per dei deficienti che ci dobbiamo vergognare. L'Occidente pianifica i propri interessi con un cinismo senza limiti. Oggi ero in una trasmissione e ho fatto notare una piccola cosa, che da decenni un membro della NATO, la Turchia, macella il popolo curdo. Anche adesso, sapete cosa ha detto una giornalista molto sussiegosa di Repubblica? Ha detto, ma concentriamoci sul presente. Allora io dico, come ebreo lo dico, allora perché spacchiamo il cazzo al mondo con i morti della Shoah? Ciao. Bene. Allora, bisogna dire una cosa, fa bene, benissimo Monio Vadia a squarciare il velo di questa ipocrisia sulla presenza dei nazisti in Ucraina, però la forza, l'energia che hanno preso queste componenti più estreme in Ucraina è derivata proprio da quella famosa guerra del Donbass, perché durante quella guerra nel Donbass, quando è cominciata, quando hanno tentato di riconquistare le repubbliche che si erano separate, in realtà l'esercito ucraino si è quasi dissolto, ha preso le armi e le ha date, e le ha date a quelli che si erano separati, insomma a quelli che si erano rivoltati, e sono andati via. Allora a questo punto il nucleo combattente più forte sul fronte del Donbass sono diventate le famose milizie paramilitari, che sono poi però state acquisite all'interno dell'esercito. Io ogni tanto cito ai tassisti, a quelli che mi accompagnano, diciamo, nelle mie varie avventure personali, questo dato che ci sono due eserciti contrapposti e che l'esercito ucraino è fatto da 320.000 uomini, mentre i russi che sono entrati lì sono immensamente più armati, ma sono 120.000-130.000 persone. Quindi 120.000, e però dall'altra parte ci sono quasi tre uomini contro uno. Quindi armarli fino ai denti e per avere la lotta finale vuol dire veramente andare a creare le condizioni per una strage infinita. Cioè farci vedere le Molotov, quelli che raccolgono le pietre per strada, è un imbroglio, è una fake news. Cioè lì ci sono eserciti che combattono con mortai, con missili, con armi. Questo è il punto dal quale dobbiamo partire. Cioè questa è la realtà. La idea dei ragazzi della Via Palla che combattono Stato per strada serve soltanto a mescolare popolazione civile e militari, e questo crea un pericolo molto grave per le popolazioni civili, perché i russi non ci vanno per la leggera, menano, e quando non si distinguono gli obiettivi, quando lo facevano in Palestina ci spiegavano che le armi, no, erano nascoste dove c'erano i bambini. E vabbè, adesso succede la stessa cosa, non è che gli eserciti si affrontano in campo aperto. L'unico modo per far finire il massacro è trovare un compromesso. Il compromesso lo dobbiamo trovare per evitare che l'Ucraina venga distrutta e che magari venga distrutta anche la Russia, e che appresso alla Russia veniamo distrutti anche noi. Allora, qui c'è un racconto del fatto che la non violenza può agire e deve agire, e che agisce quando guarda ai profughi. Le parole che sto per leggervi sembrano scritte oggi, ma hanno 56 anni. La pace tra gli stati, le nazioni, gli uomini è la condizione prima per consentire all'umanità tutta di procedere sulla strada del progresso verso il raggiungimento del traguardo comune a tutti i cittadini del mondo. Una vita tranquilla, sottratta all'incubo della guerra e di ogni altra umana calamità, dove ognuno possa trovare la felicità di vivere liberamente con la propria famiglia, con i propri amici, nel proprio lavoro, dedicato a se stesso e alla comunità in cui vive. Così inizia il patto di amicizia saldato nel 1966 tra la mia città, Bologna, e la città di Kharkiv, città dell'Ucraina orientale, tra le più fortemente colpite dal conflitto armato in corso. Spesso ci si interroga su come rendere attuali i gemellaggi. Beh, mai ci saremmo immaginati di farlo raccogliendo beni di prima necessità da inviare ai cittadini e alle cittadine di Kharkiv. Allora da questo palco voglio ringraziare Mediterranea Rescue, che ha reso possibile tutto questo, e mandare un abbraccio al nostro consigliere comunale Detyon Begay, che in questo momento si trova sul confine di ritorno della sua terza missione umanitaria, e ringraziare tramite loro tutte le azioni umanitarie in questo momento di guerra. Questo succede perché 68 giorni fa Putin ha invaso l'Ucraina, macchiandosi di crimini verso l'umanità, e ne risponderà alla storia. È chiaro a tutte e a tutti noi chi è l'aggressore e chi è l'aggredito. Ma non possiamo pensare di risolvere questo conflitto armandolo, perché deve venire spontaneo chiedersi fino a quando, fino a che punto. Sono passati 68 giorni e in questo lasso di tempo le parole terza guerra mondiale o armi nucleari, concetti fino a 2 mesi fa distopici, ora possono sembrare realtà. Dobbiamo chiedere una reale inversione di rotta a chi governa il nostro paese, non avere paura di dire con chiarezza che inviare armi o addirittura investire il 2% del PIL in armamenti avrà come conseguenza un'escalation che porterà solo più morti innocenti sui luoghi del conflitto e aumenterà le disuguaglianze anche nei paesi non combattenti come il nostro. Abitare un luogo della violenza passata significa confrontarsi con l'esperienza della guerra quotidianamente, significa confrontarsi ogni giorno con tutto quello che alimenta la cultura dell'oppressione, della sopraffazione, dell'uccisione. Per questo affermiamo anche oggi che il ricorso alle armi è una sconfitta e chiediamo con forza che l'opzione diplomatica del confronto torni con impegno e determinazione al centro delle relazioni internazionali. Recita così l'appello che hanno scritto i cosiddetti luoghi della memoria, come Sant'Anna di Stazzema, come Montesole, per chiedere e ribadire la riattivazione del dialogo e del confronto in ogni sede internazionale, l'hanno scritto qualche giorno dopo lo scoppio della guerra, di questa guerra. Sappiamo che questo non è l'unico conflitto in corso, naturalmente, anzi, ma questa volta la guerra è arrivata alle porte dell'Europa e questo ci tocca nel profondo, perché fu proprio la conquista della libertà e della pace il preludio per la nascita della nostra stessa Repubblica, della nostra Costituzione antifascista, l'antifatto necessario perché nascesse qualche anno dopo la Comunità Europea prima e l'Europa poi. Allora è proprio da loro, dal nostro governo e dall'Europa, che dobbiamo pretendere un protagonismo europeo nei negoziati per la pace. Serve anche una piena applicazione della risoluzione ONU del 2000, Donne, Pace, Sicurezza. Fu la prima a menzionare l'impatto della guerra sulle donne, il contributo specifico che possono dare le donne nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti e per una pace durevole. Ne invoca la partecipazione ai tavoli di risoluzione delle controversie. Ebbene, non può sfuggirci il fatto che sono secoli che leggiamo libri di storia scritti da uomini che parlano di uomini che decidono guerre verso altri uomini. E anche questo è il patriarcato. A un conflitto... A un conflitto messo in campo da un uomo, a un linguaggio bellicista, a una narrazione mediatica spesso aggressiva, in cui una pacifista sente quasi il bisogno di doversi giustificare, rispondiamo allora con pratiche femministe. Ritroviamo la sorellanza e la fratellanza tra i popoli, e la prima fra le pratiche femministe è certamente la messa in campo del dialogo. Inoltre, non possiamo ignorare il grido delle generazioni più giovani, come quelle di Sara Diena, che ci chiedono di cambiare prospettiva sull'energia. Abbandoniamo gas e petrolio e con loro la nostra dipendenza energetica ed economica dalla Russia. Futuro significa giustizia ambientale e questa giustizia passa anche dalla nostra autonomia energetica e dalla ricerca di risorse pulite. Generazioni che si intrecciano e saperi che si incontrano, da chi ha vissuto le guerre del passato a chi porta avanti le battaglie fondamentali per il futuro, come l'uguaglianza di genere, come la lotta per un ambiente e per un mondo più giusto. Costruiamo insieme un futuro di pace. Siamo ne ambasciatori, siamo ne ambasciatrici, in ogni luogo, in ogni azione e in ogni pensiero, insieme. Grazie. Allora, ci stiamo preparando al gran finale, però vorrei che prima un applauso per Maura Cossutta da Casa delle Donne, se si può alzare per favore, per riceverlo, perché è stata una delle prime ad aderire a questa manifestazione. Bene, e soprattutto vorrei un applauso per i portuali di Genova che sono stati i primi a rifiutarsi di caricare e scaricare armi. Prego, alzatevi, alzatevi. Io non so dove siano finiti, ma un applauso per i rider che sono sempre stati con noi, dove sono da qualche parte finiti in piccionaia. Va bene, vi vogliamo bene e vi seguiamo. Sono veramente la parte nuova del sindacato, diciamo la verità. Sono quelli che stanno dando lezioni a tutti su come si combatte per i propri diritti. E allora, siamo arrivati a discutere un po' di militarismo, di eroismo, di tutte queste cose delle quali ci stiamo nutrendo in questi giorni, perché la prima cosa che dobbiamo rifiutare di fare è proprio quella di essere eroi. Siamo imbevuti di militarismo e senza accorgercene stiamo utilizzando la guerra anziché escluderla dal nostro orizzonte culturale e politico. La stiamo umanizzando. Basti pensare che siamo qui questa sera per trasgredire ad un divieto, pronunciare la parola pace senza infingimenti. È assurdo, è doloroso percepire che la parola pace sia divenuta un discrimine, una parola divisiva, addirittura negativa. Una colpa da espiare per chi persegue la pace come obiettivo prioritario. La cultura di guerra è dominante, per chi non si adegua, per chi vi si oppone, scattano le liste di proscrizione a mezzo stampa, come nel caso recente dell'amica e compagna Ida Dominianni. Ogni critica e complicità con Putin, il tiranno del Cremlino, con il quale però fino all'altro ieri l'Occidente intero ha stretto accordi e suggellato intese, mentre tanti dei moderni proscritti lo avversavano e ne denunciavano gli evidenti tratti deteriori. Siamo passati dal manifesto di Ventotene, un testo fondante per l'Unione Europea, all'urticante immagine di Roberta Metsola, la più giovane presidente del Parlamento Europeo, solitamente abbigliata in informali e impeccabili tailleur, che si è presentata ad un incontro con Zelensky in un informale e disinvolta maglietta verde militare. Siamo immersi nel militarismo come sistema culturale, spesso latente, che pervade in modo subdolo, in modo dissimulato, le pratiche quotidiane di mondi più disparati. Le immagini e i simboli hanno un ruolo fondamentale nei processi di formazione del pensiero per le notevoli implicazioni culturali e politiche che esercitano, per il mondo di significati che costruiscono. Siamo sommersi di militarismo. Come in ogni narrazione bellica che si rispetti, ci sono gli eroi. Nella guerra, ai tempi dei social, però, gli eroi si confezionano, si costruiscono con strumenti quasi hollywoodiani. È sempre più consueto imbattersi in video di soldati e soldatesse che ritornano a casa dopo mesi di assenza e che vengono raccontati, in cui vengono raccontate le reazioni gioiose dei loro cari, addirittura dei loro animali domestici. Un fenomeno soprattutto americano, militari che ritornano a sorpresa e rigorosamente in tuta mimetica. Sarà che detesto ogni forma di patriottismo militare, ma confesso che a me quei video non commuovono affatto, anzi mi inquietano. Non mi commuove la soldatessa che in tuta mimetica entra in una scuola elementare per salutare il figlio, o il soldato che sempre in tuta mimetica entra in una sala travaglio per fare una sorpresa alla moglie in procinto di partorire. Questo plot narrativo vuole farci familiarizzare con la guerra, è un processo empatico che tende in qualche modo ad umanizzarla. Pochi giorni fa ho incontrato per la prima volta un video del genere con protagonista un soldato ucraino che fa ritorno a casa e viene accolto dalle festanti urla della sua bambina. Un bellissimo quadro familiare, l'uscio di casa, la bimbetta in maglietta rosa, le buste cariche di spesa appoggiate un attimo prima dell'abbraccio lì per terra. Ma qualcosa in quella immagine stona, della presenza immancabile della tuta mimetica, quotidianità e mimetica. Normalità è mimetica, non è un padre che torna a casa dalla figlia, è un soldato. La guerra è tornata ad essere considerata come una metafora di valore e si impone nel nostro quotidiano. È in atto un fenomeno inquietante. La nostra società, la nostra vita quotidiana e il nostro modo di vedere il mondo sono intrisi di militarismo. Siamo allo sbando della ragione, siamo allo sbando dei sentimenti. L'orizzonte del baratro non è distante. Ma non è poi tutto perduto. Se ci fosse anche una sola strada, per quanto stretta, per quanto impervia, per quanto faticosa, vale la pena assolutamente percorrerla. Si è ancora in tempo per arginare questa ordinaria follia che ci circonda tutti, e tentare di farlo è un imperativo categorico. Con tutti gli organizzatori di questa serata abbiamo deciso di dedicarla a Andy Rocchelli. E i genitori, Rino e Elisa, hanno scritto una lettera molto bella. In questa lettera hanno voluto che io vi dicessi che il loro figliolo non si trovava in quella zona perché c'era una guerra. Non era un reporter di guerra, odiava le guerre, non le sopportava. Quindi pensava che il lavoro dei giornalisti non consiste soltanto nel fatto di andare a raccontare le guerre quando scoppiano, ma di andare nei punti di crisi per mostrare al mondo che le guerre si possono fermare, che si può fare qualcosa prima che scoppino. Questo è stato il lavoro del loro figliolo, che è stato ucciso, i colpevoli non sono stati puniti e loro dicono c'è una ragione più per volere la pace, il fatto di riprendere il cammino della giustizia. Non capisco perché Vauro non si sia nel frattempo preparato. Il primo ad arrivare è l'ultimo. Io, per chi mi conosce, sa che in genere vado a braccio, invece stasera non me la sento, perché Andy Rocchelli era un mio caro amico. E allora, proprio per cercare di mettere un po' di distanza emotiva, che come vedete non riesco bene a mettere, ho scritto queste poche righe che vi leggo. Qui la parola eroe si è sentita echeggiare e voglio parlare anch'io di eroi. In guerra si sa, ci sono eroi. Di un eroe vi vorrei parlare. Quando ho conosciuto Andrea Rocchelli aveva 28 anni. Lavorammo assieme ad un reportage su Chernobyl in Ucraina. Ci siamo praticamente conosciuti in Ucraina, prima di Maidan, prima di Odessa, prima del Donbass. Andrea, Andy, aveva sempre al collo la sua macchina fotografica ed addosso una grande passione ed una capacità di empatia che rendevano i suoi scatti colmi di umanità. Forse ce n'è uno alle mie spalle, eccolo là, vedete, quelli sono bambini del Donbass, della guerra di cui nessuno voleva parlare, della guerra dimenticata, bambini terrorizzati che hanno trovato rifugio in una buca, in una cantina. Quelli erano gli scatti di Andy, che come i suoi genitori ci hanno detto in questa lettera, non era un avventuriero, non era un ragazzo giovane e impetuoso che voleva sfidare la sorte, voleva essere un testimone. Bene, i suoi ultimi scatti, gli ultimi scatti di Andy, raccontano il terrore. Quello, no, questo non è uno scatto di Andy, ma l'avete visto prima? L'avete visto. Ecco, quegli scatti sono letteralmente gli ultimi scatti di Andy, perché Andy ha continuato a fotografare finché una scheggia di mortaio non lo ha decapitato. Sono letteralmente gli ultimi scatti trovati nella macchina fotografica di Andy. Il 24 maggio 2014 si trovava in Donbass, a Sloviansk. Voleva documentare quella guerra della quale pochi parlavano. L'auto sulla quale viaggiava insieme al suo interprete Andrei Mironov e ad un giornalista francese fu colpita da raffiche di Kalashnikov. Il tempo di fuggire e cercare riparo in un fossato. Ma il battaglione della Guardia Nazionale Ucraina, attestato sulla collina, decise di bersagliare con colpi di mortaio quel rifugio. Non c'era nessuno scontro in atto. Non si trovavano fra fuochi incrociati. L'obiettivo erano quei giornalisti. Le ultime foto di Andrea coincidono con i suoi ultimi momenti di vita e con quelli di Mironov. C'era su quella collina, perché di eroi stiamo parlando, il sergente della Guardia Ucraina Vitaly Markiv. Markiv ha doppia nazionalità, è anche italiano, ucraino e italiano. I carabinieri lo arrestano in Italia dopo accurate indagini. Viene imputato di concorso in omicidio di Andrea Rocchelli, condannato in prima istanza a 24 anni di reclusione. Le pressioni politiche e diplomatiche del governo ucraino si fanno fortissime anche qui mai raccontate, a Kiev sotto l'ambasciata italiana mentre il sergente Markiv era ancora agli arresti, si facevano manifestazioni in favore della liberazione del sergente Markiv. Bene, lo stesso presidente Zelensky se ne farà promotore, e non so se ciò perché sono di spalle, vabbè, l'avete forse visto, c'è anche un tweet di cui pochi sono a conoscenza, che, nel quale Zelensky ringrazia il presidente Mattarella e l'allora presidente del Consiglio Conte per aver liberato questo loro commilitone. Per un cavillo giuridico la Cassazione assolve il sergente Markiv e come eroe, perché è di lui che sto parlando, di questo eroe, e come eroe viene insignito dell'ordine per il coraggio di terzo grado. In guerra si sa, ci sono eroi. Andrea, eroe è chi uccide, eroe è chi ammazza in guerra. Chi muore a 30 anni come Andrea è solo un'altra vittima, una vittima tra le migliaia di vittime che questa guerra criminale sta mietendo. Ma Andrea era andato là per scuotere l'indifferenza di troppi, potenti e media. Era andato là sperando che la sua testimonianza potesse servire ad evitare che a guerra si aggiungesse guerra, come invece è avvenuto. Pace proibita. Verità proibita, giustizia proibita. Mauro, allora, mentre ci prepariamo perché voi possiate salutare tutte le persone che con me hanno lavorato in 4-5 giorni in una maniera veramente straordinaria, perché sembra facile mettere su tutto questo, ma io ormai sono rimasto una persona sola, anche se non sono mai solo, perché tutti quelli che hanno lavorato con me, mi hanno accompagnato durante la mia lunga vita, ormai quando c'è bisogno danno una mano, devo dire in una maniera straordinaria, come è bastato chiedere aiuto per avere 1500 persone che ci dessero una mano per costruire questo evento. Non è una cosa facile, non credo che un partito ci riuscirebbe così facilmente. Io sono andato a farmi la Perugia Assisi, no? Perché questa volta volevo proprio sentire, perché come giornalista mi piace sentire l'umore delle persone, e vedevo questa fila enorme di persone che camminavano da Perugia Assisi, questa volta volendo farla proprio tutta la marcia, perché è diventata come una specie di preghiera per la pace. Ora, guardate, in mezzo a queste persone, che sono le persone umili, no? Diciamo, ci sono quelli che hanno dato una mano maggiore ad accogliere i profughi, a portarli nelle loro case, a togliersi qualunque diciamo superfluo pur di aiutare gli ucraini che avevano bisogno di aiuto. Io li vedevo che marciavano e quello che vedevo che c'era una bandiera ucraina, ma in realtà tutto il corteo non aveva un segno dell'Ucraina, perché tutto il corteo aveva un solo segno, quello della bandiera della pace. E allora mi sono chiesto, ma perché? C'è forse qualche solidarietà nei confronti di Putin? No, perché tanti cartelli bollavano Putin in una maniera che non si potrebbe fare in modo più chiaro. E poi piano piano, mentre io mi ponevo questa domanda, sono cominciati ad arrivare a salutarmi persone che stavano dentro questo corteo. Allora, io, ti ricordi Michele, io sono uno dei commercianti di Capo d'Orlando. Ti ricordi Michele, io sono un operaio di Nichelino, della Fiat, quando facemmo la trasmissione sui diritti. Ti ricordi Michele, io sono... E venivano fuori tutti i pezzi di storia della mia televisione. Io sono quello che ha visto Belgrado. Io... E a un certo punto viene fuori una signora che mi viene incontro e mi fa: Michele, Michele, Michele, Michele, lo vedi? Lo vedi che esiste? Dico, come esiste? Ma chi esiste? Dio esiste? La sinistra esiste? Che cosa esiste? E quello che voleva dire è che esistiamo noi. Siamo noi che esistiamo, con i nostri sentimenti, con il nostro dolore per le vittime, per tutte le vittime, ma prima di tutto per le vittime civili, per quelli che scappano, che odiano le armi, prima di tutto per quelli, ma poi per tutti i morti. Esistiamo. E lo so che stasera non è una trasmissione, è una protesta, è un grido, ma l'abbiamo voluto lanciare lo stesso, poi continueremo, abbiamo visto che abbiamo la forza di farlo. Quindi prendere coscienza della propria forza è l'inizio di un cammino. E adesso, Quater Trio! Grazie, grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci, grazie. Grazie.